Beh, allora. Non so dove sia. Prova a lezione a M, a M. Ora, ora, ora, ora, ora, ora. Ma porca miseria. Ciao Gian, ma ascolti, sì. Buonasera. Buonasera, ma non mi ascolta. Buonasera, no, quello là non ti ascoltava. Con lui sta uscendo la cacca, abbassata la lubrificazione. Ciao Gian, buonasera. Vedi, tutto il giorno così. Un attimo, come sta facendo una mattina, fa vedere. Abbassa per l'amplificazione, ti ho detto. Sì, bene. Abbassa per appena. Non si capisce la vita. Guarda che tu mi ascolti, perché sei così, perché sei vicino. Già, ma come mi senti tu? E adesso è un po' più chiaro, ma anche io non vedo la qualità. Beh, dica due volte la verità, che lui non ci crede, che la mattina hai detto di abbassare, solo che non ascolta un'altra persona. Io ho detto di alzare, ma poi ci siamo sentiti, gli ho detto, guarda che secondo me, ma tu sì, fate l'abbassare per appena, perché effettivamente era troppo alto, l'abbasso appena. Ah, va, io chiudo. Oh, santa pazienza. Sì, ho sono anch'io troppo cazzo. Poi mi ha chiamato e vabbè, sono dovuto andare. Antonio, ti sciopero? Sì, sciopero dalla fame. Ti stai ricomponendo da quello che hai mangiato? No, non è che abbia mangiato così tanto, perché già non avevo niente di particolare da fare. E allora sono sceso a rostire due pezzi di carne, visto che ascoltano a tarrottoli. Tanto, scusa un attimino già, ma il numero è andato a vicino. No, ok, vieni, devo tutto vedere di andare a tattura. Io non riesco a scambiare, a volte le parole, parla più piano, tu è più lontano ascolto, non vedete. Ma io gli ho detto di abbassare, ma non mi ascolta. Sì, se vieni, se riesci a abbassarlo di più, tu vieni. Vieni, io sono qui, lo so, vieni. Se riesci a abbassarlo di più, tu fa vero. Ma è una bomba di vento. Se spengo la vento ti devo spegnere il campare di chi? Io non ho capito, guarda che se spegno la vento non è spegnere l'apparecchio, però non è chiara come la radio, proprio la pullo del processore mattinino. Non rimettilo che è meglio. Adesso lo rimetto, vedi un po'. Oh, prova. Adesso va bene. Adesso va bene. Perché stiamo funzionando LG1? Vedi che è bloccato. Ma tu no, non lo so, per il problema con quel cavo a vedere un pochino, perché l'hai toccato andare di bene stamattina. Sì, no, capito quello che ho detto, proprio a un certo punto smette di andare. Sì, capisco, ma la modificazione è quasi nulla. Ma che dirti, che dirti, che dirti. Così la voce è chiarissima. Sì, ma la modificazione come la valerella, magari un po' la abbassa per tutto si è chiarita. Aspetta, devo portare l'uccellino a cambiare l'acqua d'olive. Ma vai, lascia le cose lì per la parrilli, olive, per carità. Ma quali sono quelle secche che si mangiano sotto sale? Lascia di cambiare le olive all'acqua, lascia. Paga, noia, se non si scherza, per carità. Olive sono No, no, comunque così io lo preferisco che con la modificazione di la verità, che è molto più chiara la radio, bella, sei di tutto il piccato. Lo sento, sì, ti capisco, però c'è qualcosa. che comunque i tipi di modulazione sono vedi un po'. Prova, 1, 2, 3, prova. Sì, ci sono poco. Perfetto, c'è un mic gain praticamente chiuso. Praticamente è chiuso. Quindi se tu apri il mic gain appena si distorce, ti... Così mi state dicendo, se lo sollevo se ne va tutto quanto a zero così. Sì, però quando parla tu deve passare, quando parla io devo passare, lui non mi puoi dire più così. Io sono sempre così già, non so niente di più. Infatti se io ho più movement mi sento chiaro, invece se non passo le parole mi stanno sempre bene. E invece sono una questione di regolazione, sai, come. Comunque è strano, perché dovrebbe funzionare anche al tavolo, di contatto però posso sempre sul caso. Vabbè, ma se io sollevo, guarda, se io sollevo, vedete che sto male. Ma se lo fai poco, le parole dice scambito, adesso tu dire è stata finita. Non è chiara come era prima la radio, però si capisce. Ho capito. Però così è, praticamente allora. A quanto ce l'hai? Muoviti. A quanto ce l'hai? Ti ho detto che così non è. È poco meno di uno. Io guarda già. Abbassato. Così per me può ancora andare. Però se lo alzi di più no. No, io parlo di me, io ho abbassato. Adesso si è saltata appena la durata da poc'anzi. Come adesso? Va bene. Sì, effetti era così, che c'è la prima cosa di volume e di procedere. E no, quello lì, praticamente, le regolazioni bisogna farle di nuovo. Se ne va, anche se tu fai la regolazione, bisogna andare a tutti. No, la mia ha un problemino. Un problemino irrisolvibile. Purtroppo mi è partito il coso dell'LC, no? Quindi c'ho l'esterno, si carica di onde elettrostatiche e praticamente va l'LC se ne va a maestra. Quindi devo avvicinare la mano, perché quando commuto e uso una radio o l'altra magari si carica, no? E allora devo toccare appena il potenziometro di dietro, perché ce l'ha esterno momentaneo. Si scaricano le onde elettrostatiche e riparte alla grande, vedi, adesso per dire è normale. Cos'è che racconta il suo Gianni? Ma tu con canale precedente adesso? Non ti interessa, cos'è che racconta il suo? La mia. Ah, pensavo la mia, io non lo tocco mai. Non ti interessa, non gliele dire a tu. Infatti mi dicevo il comandamento, però che sei uscito. Non gliene dire a tu. Un bidone sto usando già. Sì, vabbè, dai, ho capito. Quella che mi ha capito. Andare. Ciao, Claudio. Ti stiamo chiamando per il cognome. Io immagino. Sì, Claudio Matti, vi auguro Alfa 34. Qual è il problema? Ti stavo per chiamare Claudio Matti. Qual è il problema? Non devono darmi scimmie. La patente viraggio, la licenza viraggio, la concessione viraggio. Ho avuto oggi un bagaglio. Già, che problema c'è? Lui, sì, non so tu. Già, io a pezzi. Mi fanno male tutte le ginocchia, riesco manco a camminare. Non sono andato da nessuna parte, sono ancora in pigiama. Non so tu, ma io mi sono mangiato 350 grammi di pasta e ricci. Ammazza te le varie. Io invece Anna mi ha fatto proprio perché... Secondo lei è il peso, allora mi ha messo a dieta, mi ha fatto un lavamano di insalata, ha giovato come anche il goniglio, e poi un merluzzo bollito con l'olio e il limone, ciò che accorta a buttare. Io mi sto aiutando a lavorare in tappella, di qua, perché come carico il tempo di sono male, invece aiutandomi con le tappelle riesco a camminare, se no, se mi posso rendere in mano non riesco più a più. scusa, io penso che sia più tempo, ma io sono proprio arrugginito di tutto. Certo, già, mi sono alzato dal letto stamattina e cioè, mi sono spaventato, non riuscivo a stare in piedi, non sono uscito da nessuna parte. Nulla, mi ero sdraiato, anch'io, guardandomi un po' in televisione, e invece che me ne vado un po' alla radio, perché non riuscivo a stare neanche al divano. Allora mi sono seduto qua, è un casino, e basta. Vabbè, tanto te l'ha fatto abbassare Tino, troppo forte da lui, no? Sì, l'ho abbassata, però che lì non posso scendere, ero già quasi praticamente a zero, cioè non c'è molta differenza tra zero e mezza stacca. Beh, poi sempre trovare la soluzione che troviamo tutti con questo radio e quando siamo vicini, stacchi il processore e tieni la modulazione un pochino più alta, perché è il processore che spinge, capito? No, lascia così che va bene, a me va bene ora, va perfetta. No, anche qua è perfetta, va bene, un po' più bassa di stamattina, ma va bene. Allora, c'è il problema che ogni tanto questo microfono si inchioda. Dove ci 60? Normale, sollevalo e muovi il tastino sotto. Infatti devo fare così, ma perché si inchioda? È un difetto che c'è l'MC60. Io ho iniziato a farlo dopo un paio di anni, un annetto, così, un anno e mezzo. Adesso non lo sta più facendo perché io praticamente il sotto gli avevo spruzzato uno spray molto, molto denso, diciamo, no? Non quello a secco, quello proprio che spruzza Gianni a volte, no? Tipo CRC, e non l'ha più fatto. Se le spruzzavo quello a secco come si asciugava lo tornava a fare, adesso non l'ha fatto più. Perché io ieri l'ho aperto, l'ho ripulito, l'ho spruzzato perché c'era il lucco che era si inchiodava, no? Quello proprio olioso, quello lì devi mettere, non le mettere quello a secco perché non fa di nulla, è un difetto del 60. Io ne ho 4, tutte e 4 fanno sempre lo stesso difetto, però oramai so che cosa è e quindi niente, capito? Ui, Gianni, Castiguri e Bue Stampelle va, a posto Gemma. Oh, tu, il DSS 110, pulitore di contatti, se vuoi ce lo vedi. Il DSS? Il pulitore contatti, si chiama DSS 110, se lo vuoi ce l'ho a casa. Ma io ho utilizzato quello che uso io per l'elettronica, che l'ho usato da vita. Non so, seguite, i microfoni sono particolari. A secco, tu? Sì, io li ho sempre utilizzati a secco, anche perché se l'umido lubrificato, poi si impasta tutto e si spacca quanto c'è, però il microfono non è una cosa che prende polvere, in effetti. No, aspetta, scusami, questo qua è un disossidante a secco, però è umido, cioè nel senso che quando tu lo spruzzi rimane umido, poi non si asciuga piano piano. Sì, ci vuole un po' olioso, tanto non le fa niente, è un interruttore, così il cazzo non le fa tenuta, non è un circuito, proprio nell'interruttore spruzzaglielo. Ma vabbè, ma perché tu pensi che sia tanto buono l'interruttore? Io glielo punticello se la veglia in culo. Sì, ma si può anche eliminare con l'interruttore, che se poi ti serve in modalità normale non lo puoi usare, capito? Sì, vabbè, cosa lo uso a fare? No, glielo punticello proprio. Sì, l'unica modifica da fare è quella, per eliminare quell'interruttore di merda che si inceppa. È quello lì che lo... però con l'andare del tempo non ho capito perché, eppure non si vede niente, non c'è niente, è ossido, nuda. Oh, chiude il circuito, oh, tu non lo usi, evidentemente non lo stavano usando quel microfono. Se non lo usi va a chiudere il circuito di preamplificazione, così a rasura. Però in effetti dovrebbe funzionare uguale, anche se in posizione out, perché dovrebbe uscire lo stesso il microfono, o no? Sì, ma in posizione non amplificata. Ma invece questo non esce proprio, cioè a un certo punto tu vedi nella portante, no, non vedi niente. Nulla, non si muove nessun ago, cioè il rullo fluorescente, fermo. Lo muove poco a poco sotto e riprende. No, allora c'è qualche problema. Cioè questo adesso è in posizione in, io chiudo, lo metto in posizione out, ecco qua, ed è chiuso, però il microfono sta uscendo, poi lo rimetto in posizione in e rimane in amplificazione. Invece no, questo qui quando lo sposti poi non esce brutto, a un certo punto si inceppa e chiude tutto. Non ce l'ho già detti, è un difetto che fa, però non è che non ti fa uscire, ti abbassa la modulazione, capito? Chiude praticamente il circuito di preamplificazione, va in out, e basta, però esce, i miei escono tutti, si abbassano ma escono, allora lo tocco e ritorna normale. E al limite ce l'ho posto la fine, lo trova lui, no, perché voglio valutare, se non trova il microfono, se non trova il radio. Questo non lo so, questo non lo saccio. No, sicuramente è un problema del microfono, perché ti ricordi che abbiamo provato il mio e andava alla grande, abbiamo provato il palmare e idem con patate, andava bene, non era amplificato, però la modulazione usciva bene. Lo so, sì, però vedi, in quel momento che smette di funzionare, bisognerebbe trovarne un altro subito, perché anche qua lui adesso sta andando, mi sposto di frequenza, mi accorgo e non va più, devo dare due colpi sotto, mi sposto di nuovo di frequenza, mi riaccorgo, di nuovo la stessa cosa. Vieni, te lo prendi, tanto devo uscire, se vuoi, se ti vuoi fare una passeggiata, vieni a casa, ti prendi il microfono e poi magari domani, non lo so, non c'è problema. No, sì, intanto adesso io tra un po' vado via, da qui dopo lo trovo domani. Se stiamo uscendo qua non ne ho antenna, cioè ce l'ho su una mezza antenna, se è ancora in piedi non lo so, però c'è il cavo tagliato, dovrei aggiuntarlo e provare, dai. Vedo, al limite non lo so, devo fargli le connessioni a più 5. Che antenna stai usando tu? Una PLC 1000, qua, sul palo della tua TV. Ti è comunicato da Santiago 1, Santiago 3, se sei Santiago 9. Sta scaldando, a me mi arriva 9.40, si nuota, si può immaginare. Lo smitter sta andando sempre con gli stessi picchi. Sì, ma il 4.40 non è il 140, è tre conversioni. E quando tu lo spegni e lo lasci a 20 watt, lo accendi è sempre a 20 watt, non è che... Non ho bisogno di scaldare i 4.40, evidentemente ha messo bene l'antenna. Ti sto dicendo che a me mi sta arrivando 9.40 attenuato, ti puoi immaginare quando metterà una 1 o un'altra canna, una canna da pesca per lì. Certo che con Antonio apro la finestra e ci tocchiamo ora. Arriva bene, arriva bene. Adesso arriva bene, almeno due chiacchiere puoi fare. No, Antonio, non è la radio, è il microfono. È il microfono, non ti preoccupare, vai già. Sicuramente anche tanto tempo sta usando, magari si è formato un po' di qualcosa all'interno, quando muove il corpo. Sì, ma è un difetto dei 60, io una vita chiuso 60. Inizialmente non l'ha mai fatto, poi ce l'ha fatto un po' a tutti quelli che, i vecchi, insomma, che usiamo questi microfoni. Io ho scoperto questa cosa, infatti tutti dicevano: il microfono si è rotto, no, si è rotto, sposta quel coso, quel tastino, vedrai che funziona. Ed è così, non va nulla, non c'è niente. Mettili un po' di spray per contatti, che sia un pochino, non proprio a secco, che si asciughi subito come quello che c'è a Tino, vedrai che non te lo fa. Ma io, grazie a Dio, per il momento non mi devo mettere nella lista nera, No, ma il mio no, l'ho fatto una volta, mi pare un paio di volte, forse neanche col 440, forse col 680, col 140, poi non l'ha fatto più. Ho messo quello spray, l'ho pulito, non me l'ha più fatto, funziona perfettamente, però è un difetto dell'MC60, capito? E l'ha fatto anche a Marco parlando quando c'aveva il 1000 MP con l'MC60 in 40 metri. Ma cosa fa? Di moto praticamente come la vasca di trasmissione? Fa così, tu stai parlando, questa è la preamplificazione, no? Normale, tu stai parlando e automaticamente fa così, capito? Cioè ti si abbassa la modulazione, capito? Così, proprio come sto facendo io in questo momento, poi lo tocchi e lui torna alla normalità, capito? Così fa. Ma non so così che fate? No, sì, a me non mi fa così, claro, io quando... quando vado, quando si inceppa, prendo la trasmissione ed è come se non stesse uscendo di fat, nel senso che ha picchi, praticamente vedo la portante, magari a 10 watt come l'ho lasciato, però picchi di legge o fischio, è sempre fermo rimane. Quindi non esci proprio? No, apparentemente no, poi se esce non lo so, perché non lo posso sapere, che non lo posso ascoltare, però apparentemente sembra che non stia uscendo. Ma tu fai la prova, mentre stai parlando, prendi il microfono in mano, la lancetta, a fanculo, già mai capito, spostalo da in e out mentre stai parlando, vediamo se agisce o se ti toglie la modulazione. Vedi un po', guarda, adesso in praticamente adesso sei basso basso, muovilo più volte e lascialo fermo, e magari quell'interruttore lì che messo, si è messo a acqua. No, eccolo qua, vedi come fa tra... sì, è l'effetto del 60, cambiaglielo con l'interruttore, lì se puoi male a vero, cambiaglielo con l'interruttore, vai a Fugiano, te lo copri, sono dei semplici interruttori on e off, e glielo metti nuovo. No, ma ce li ho, non dovrei avere nel cassettiere da qualche parte, se no qua lui lo elimina, tanto io con il 60 mica lo devo usare per la 48. E ma è l'interruttore, stai sereno, non è la radio, è l'interruttore, quello è il difetto che fa l'MC60, quello lì, il tuo è messo più male, perché praticamente ti elimina completamente la modulazione, il mio invece è ancora buono, ogni tanto, adesso da tanto però lo fa, ma comunque ti abbassa la modulazione, a te te l'elimina. E vabbè, vecchiotto questo qua, quindi... si mi ha detto che è trio, che è figura di due, anche lui ti sta dicendo cambiami, togliglielo, mettiglielo nuovo, capito? Il microfono c'ha un paio d'anni, non c'ha tutti, forse il più vecchio è questo, che sto usando adesso, ma gli altri, uno me l'aveva dato già in scatola, quindi era nuovo, me lo sono tenuto, avevo dato il 140, ma il microfono no, quindi questo che sto usando è nuovo, quanti anni ci avrà questo microfono già? Questo è un 4-5 anni, quindi sarà il più nuovo, gli altri ce ne avranno 6 o 7, ma siamo nella norma. Questo dice 3 o più, da avrà 20 anni in un microfono, c'è un bavino che te lo tocca. Sì, glielo cambio perché ha mai non ti ripeto che aveva fatto con l'MC60, era di scatto, si chiama, con la porta, ma gli avevo preso con un capo di massa, mi aveva attaccato l'apparato. Già, io quell'effetto non l'ho mai avuto, mai e poi mai, io non ne ho cavette e cavettini, i microfoni sono tutti vicino alla radio, io quando ho fatto qua la sala radio, dietro proprio quando Giulio ha montato la base per vedere l'altezza dove andavano le radio, dietro attassellato al muro, ho fatto mettere, ho messo una barra di rame tutta forata, ok, e ci sono 5, li vedo da qua, 3, 2, 5 e 1, 6, 6 giallo-verde con gli occhielli che escono dalla barra, da lì, dalla barra del rame, vanno alle radio, capito? E basta. Io non ne ho mai avuto di problemi di innesco, di rientro di RF, qualsiasi cosa c'ha il cavettino giallo-verde attaccato, anche le V, le U, l'amplificatore, tutto, non ho mai avuto rientro di RF. Com'è questo microfono? Bassa. Male? No, bassa, non è male, bassa come radio. Bassa T, molto bassa come modulazione. Magari è un microfono normale. Ma il microfono del 440? No, penso. Ah, cazzo, se l'MC43 sta uscendo molto basso. Se attacco l'MC43 come te l'MC60 da me. Era collegato al Lincoln. Il 60 però. Ma esce a me. Ma e il microfono normale adatto a te l'anto? No, non è Ocla, non me ne adatto. Se no provavi il microfono normale, capito? Che il microfono normale, se la radio a posto esce molto bene, la mia esce molto bene. Lo so, io l'ho sempre usata col microfono normale. Solo un periodo l'ho messo l'85 che me l'hai girato tutto. Possibile, 85, era sì? Yes. Sì. 85, sì. E poi l'ho volato, ha salvato la branca. Me, un po'. Cosa hai detto, sì? Il palmaro. Ma ti devo attenuare, però. Ma... addirittura, questo è il palmaro, questo. Sì, si sente, però è... vecchio d'anno, smillo, ripreso. Ehi, a becca, come va questo? Bene, col processore lo stai usando? Ma ho attaccato solo il normale, cioè le 60 ho messo 43. Ma è sembrato un po' forte. No, infatti, sta spingendo un bel, togli il processore, ti. Addirittura, cazzo, più forte dell'MC60. Ci vuole prendere il 43 quando la radio è a posto, ti faccio sentire il mio, è uguale. Senza processore lo uso io. Ecco, questo è senza processore. Vedi che bella radio. È una radio normale, ma bella chiara, molto forte. Col processore va a strappare, capito? Anche a me fa così. Allucinante, che è forte. Va bene, metto l'altro, dai. Amico, adesso ti faccio sentire l'MC43, io aspetto qua, riprendi già. Ho preso una così, niente di eccezionale, usato, per fare altre chiacchiere già. Avevo intenzione di prendere una, non sei banda, poi adesso ho preso questo qui. Guarda, questo è l'MC43. con il processore sì. No, senza processore, MC43, però io vabbè. Le corde vocali mie sono allucinanti. Questo è l'MC43 senza processore. Attaccato alla bocca. Vabbè. Fammi mettere il processore a vedere. Guarda a vedere, col processore inserito. MC60. Aspetta che ho staccato, affanculo, togliete, coglio. No, non è MC60. MC60 è completamente diverso. Allora, ora guardi, io devo uscire, ho accompagnato Gabriele anche e andare a fare un po' di sport. Quindi è al tempo di cambiarmi di uscita. Vi lascio nel caso. Sentiamo stasera. Sì, anzi là, con contribuimento, ci sentiamo. Ehi, ciao a tira, ci sentiamo. No, io non ci riesco a usare il microfono della palma già, assolutamente. Su tutte le radio c'ho tutti i microfoni di tavola. Vai Anto. Questo già è 60. Ma quanto se ti serve il tempo di venire qui ti lascio. E intanto ti se no abbiamo scoperto del cuore il discorso, è inutile. Volevo gli mettere un mano, allora. Ciao, buona serata. Va bene, non li metto stasera. Ciao, divertite allora. E non ce l'aveva in macchina, già ce l'aveva. Ok, ce l'aveva. Come sto? Passata di acqua, poi il vento, adesso c'è il sole col vento. Domani ha dato d'ora tempo stabile, venerdì di nuovo pioggia. Cazzo, vai due e accontati. Muovilo Anto, muovilo mentre stai parlando, muovilo mentre stai parlando, mandalo avanti e indietro. Affanculo, adesso lo lascio a metà, adesso è a metà tra aperto e chiuso. Perché è rotto Anto, è rotto, ok? cambiaglielo, io non c'è niente, cambiaglielo. Domani siamo un attimo, ve lo faccio, cioè che devo fare domani, devo fare un impianto di fibra e quindi sono in tre parti, poi a casa non posso tornarlo che l'antenna non... E quindi niente, se ne parlerà quando scendo, adesso magari domenica, non so. Ehi, cambia, è un interruttore di merda, no? Quello è vecchio. Perché non deve fare così. Sì, fa un difettuccio, ma ti si abbassa la modulazione, non è che te la toglie direttamente come la sta togliendo a te, capito? Infatti io per quello che ti ho detto poco fa, guarda qua, se me la toglie, non me ne accorgo, mi rimane la portata, no? Lo vedo che non c'è... Sì, non serve più isso, non serve più, quindi va sostituito, anche perché il microfono è abbastanza anzianotto e quindi devi cambiarglielo, dai, non fa niente. Una fesseria, li saldi due fili e le metti nuovo. Ah, adesso non ho letto, non a parlare, non l'ecco. Metti un interruttore di quelli di Bajou. No, un interruttore di quelli di casa, la luce di casa. Allora, se no fai come ha fatto una persona, capito, che non sa manco va un PL, no? L'internos. Lì si è rotto il pulsante, lì si è rotto il pulsante, cosa ha fatto? Il pulsante non l'ha eliminato, non l'ha tolto, gli ha saldato due pezzettini di filo e ha portato l'interruttore di fuori. Quando ho visto il cinese, ho detto, ma non capo, che cos'è sta questa pendolando? L'interruttore in out, come l'interruttore in out, non è attaccato. Sì, ci è attaccato, ma io l'ho messo fuori perché quello si è rotto. Ha distraccato tutto e l'ho messo un interruttore nuovo. Tu devi vedere, attaccato con lo scotch sul lato dell'MC60 c'era questo interruttore in out. Cioè, lo scopo qual era, scusa? Lo scopo è che gli si era rotto l'interruttore, quindi per poterlo fare funzionare in amplificazione lui gliel'ha messo esterno. Cazzo, ma guardi una bugani che su chi vera? Ma io non sabbia come ti buganniro, perché hai visto come è fatto, no? Che c'hai i due fili di connessione e i due fili di alimentazione. E tu magari sei inceppato in chivi e... Quando ho visto che l'M60 mi stava venendo da piangere, aveva messo un pezzo di scotch e l'aveva attaccato nel lato. No, anche io questo lo devo smontare, che gli volevo verniciare i tastini che sono tutti quanti scoloriti, non mi piace. I tastini scoloriti? Sì. Sto viaggio dei anni io, sono lucidi. Ma la cromatura? Cioè il PTT che cromatura non ne ha quasi più. Criscio, come si fa, cazzo, buco? Se lo vedi già ne rivene da Bigni, già, sentito Io quando ho preso 140 puri, mi ha detto, dove mi ha detto già, l'apparato è buono, testato, tutto qua, è perfetto, non c'è niente da fare. Però il microfono te lo mando per lo scelto perché è un po' consumato. Se vuoi te lo mando nuovo, 170 euro mi pare che costava. No, vabbè, a me in teoria claro, doveva darmi 43, questo praticamente mi era dato così. Guarda, io i microfoni che ho, ti sto dicendo, il più nuovo è quello che ho, che ha 4 anni che l'avevo preso da Gianni, ma anche gli altri che sono più vecchi non hanno un graffio, le cromature sono lucide, tutti i microfoni sono lucidi, cioè come fai a mangiarti la cromatura? Cosa la febbraccia? Lo dico grugato. Cosa ne so, è così, ma così, anche perché se cioè, hai fatto il look l'avrei potuto capire, ma il PTT non è che ci puoi scorrere il dito sopra. L'acido delle mani è l'acido. Se uno può dire suda molto le mani, c'è troppo. Sì, vabbè, ci vuole troppo. Vedete, quel circuitino sono 4 vittine a croce piccoline. Io le stavo dicendo, tu gli vuole vittine e tu gli vuoi fattine, la pulsata che stai andando, giusto per fare estetica, a me interessa che funzioni, poi se no rimane fuori onda. Sì, che c'è la verice cromata, tanto uguale, però devi smontare il microfono. Ascolta, cos'è che hai detto? Ti devi dare il 430? Ma no, ho detto, mi devo dare il 43, e allora mi ha dato questo, quindi non è che ti potevo dire dammi una nuova. Ah, ho capito, ho capito. Va bene, no, ma è una fesseria. Si t'attenti, devi togliere il coso da sotto, lo apri e le dai quella vernice cromata e li fai tutte e tre uguali, però sia il down e up, sia il lock che il PTT, se no ti risulta diverso poi. 4,30? No, io non lo sto dando, io me lo tengo vita naturale durante, che è meglio del 4,40, tranquillo. No, avevo capito che dovevo prendere un 4,30, invece ho capito il 43, così hai detto, le mie 43. Sì, no, il 4,30 io neanche lo conosco, davvero, non l'ho mai visto. Adesso ti faccio la foto e te la mando. Simile al 4,40, molto simile al 4,40, però come dice trasmettitore è molto più selettivo, molto più meccanico, non crea problemi che crea il 4,40. A me Fabrizio me l'ha ripreso un paio di volte, una volta c'erano dei falsi contatti, la seconda volta mi ha cambiato il display, mi ha messo il display nuovo perché si erano bruciati i due decimali, capito? Gli ultimi due decimali. Però problemi di condensatori, di quella roba lì, è molto difficile che il 4,30 lo faccia. Fa altri difetti che sono cazzate, ma non è come il 4,40. Perché poi con la del tempo anche la componentistica ha cambiato, il numero 4,40 è come sapevo di Lo so, però il 4,30 non la guardo, faccio il metro perché è tra il 4,30 e il 4,40. Quindi aspetta che non lascio, questo è il 4,30, lo sto facendo. Eccolo qua, e questo è il 4, e questo è il 4,40. Va bene, che accesso. Ok, adesso te la mando. Ricevo subito qua perché sono giù e qua no, a terra non ricevo, se vado su una sabbia non parata, sì, ieri ero su, oggi sono giù perché se l'ha preso mia figlia su. Io mi chiamo Dimberti della Brady, io te lo sto mandando, io ce l'ho, ce li ho tutte e due, uno a fianco all'altro. Questo cos'è? Questo è il 4,30, sì. Questo no, non esita che hai sbagliato. E me? No, se no ti rimando la stessa foto, ma devo mettere gli occhiali per distinguerli. Questo acceso è il 4,40 e questo è il 4,30. Ecco qua. Eccolo qua, questo è il 4,30. Sì, te lo sto mandando, eh? Va bene. Bene, bene. Bene. Io ho visto da poco, cos'è? La stessa cosa, sono 130. Sì, li ho avuti tutti io. TS120, TS130, TS140. Sì, io ho iniziato proprio con le TS120. Stadio finale a valvole, con preselettore di controllo e il resto tutto transistorizzato. E sarà un pochino più alto del 440, però la dimensione è quella. Sì, infatti ho visto che anche il 130 è simile al 140, però si vede che è più vecchiotto come concezione. E quello è trio chemo, tutti quelli sono trio chemo, del 120, il 130 e poi è uscito il 140. Poi io ho iniziato col 920, 920, 930, 940. Tutta la serie Kenwood l'ho avuta io, tutta, l'800 lo stesso, l'820, l'830 e l'850, l'840 non l'avevano fatto. No, questo che ho visto di 130 c'è solo la scritta Trio, non è la scritta Kenwood. Sì, ma il marchio Trio automaticamente si sapeva che era Trio Kenwood, capito, anche se non lo scriveva. Poi ho iniziato a scriverlo, però prima inizialmente, come il vecchio ricevitore della Trio, te la metti che dovevo barragione in mano, era solo Trio. Sì, era solo Trio per il semplice fatto che Trio era insieme a Kenwood, solo che Kenwood aveva una parte di azioni più bassa, quindi il marchio forte era Trio. Si conferma, io non c'ho più niente Trio. Pensavo il 430 fosse Trio Kenwood, invece è Kenwood, perché è una terza serie. Io tutte e due sono terza serie. Anche il 440 dice io è terza serie, pure non l'hanno fatta più. Per quello ti ho chiesto che numero hai tu di seriale, per vedere se era una terza serie, una prima, una seconda serie, adesso non mi ricordo, ma comunque quando li avevo dato io, è un bel di anni fa, quindi 19 anni fa io ce l'avevo già un paio d'anni, quindi sarà 21 anni fa. Ma dove è questo seriale? dietro, dove c'è il coso di dietro. La radio devi cappottare. Sotto la pancia c'è un numero seriale. Se ce l'hai, io ce l'ho. No, non ce l'è qua, però. Veramente mai non ce n'è, allora non è verniciata la radio. No, gli hanno messo degli adesivi sui coperchi. Ma non ce l'hai il piedino suo? Il piedino suo? E il piedino suo, quello in ferro, non c'è? Sì, quello c'è. E allora, sotto, quando gira la radio, nella pancia, nello sportellino piccolino, ci deve essere il numero seriale. Sì, ma ti ho detto che gli hanno messo gli adesivi. Gli adesivi, boh. E vabbè. Quando è tempo, vabbè, che foto, non ci ho preso nessuno questi adesivi. Non c'entrano niente gli adesivi per non graffiare. No, hanno rivestito i coperchi di adesivo, qua. Sì, sì, vabbè, non me ne fa vedere a me queste cose. No, adesso è fatto vedere per togliere e rivernice, ci vuole un secondo, ma di sotto sono belli, ma non mi ti sbatto. Perché, cazzo, Già, ma stai ascoltando? Allora, fa sempre. Ho detto, già, stai ascoltando? Sì, ti sto ascoltando. Tanto sia ti faccio le foto, fronte, retro, da tutte le parti, sia del 430 che del 440, mi dici, ma queste le comprate nuove? Cioè, è allucinante. Come si fa mamma mia, a cannibalizzare una radio, cazzo? Boh. Vabbè, quando uno lo utilizza per fare altro, ma questi lo utilizzavano per fare altro e hanno voluto farla così. Quando non è parte. Ma insomma, adesivi di quelli che si attaccano alle macchine, cosa oppure l'altro adesivo della rimorsa? No, sono di quegli adesivi che si usano anche per rivestire le macchine. Adesso li utilizzano per fare paraurti, per fare sportelli. Tipo, però questo qui è mimetico. Che la costruire per fare con la matrice? È sempre anche per le vite a me piace. Io ho la parecchio, guarda, mi piace le mani sempre così. Io addirittura qua avevo tutto il picciato, solo per un segno di caffè che c'avevo, però se ci ha potuto fare la testa del caffè, non la sapevo solo. L'ho fatto qua con le mica con bene. Non è che c'è bisogno di essere così tanto. Io l'ho comprata questa qui per fare radio. Se volevo fare, ne parlo con un'altra cosa. No, non problema, ma non è che c'è gente sempre quello che ci mangia sulla tastiera del computer, eccetera. C'è quello che fuma e invece di spostarsi il collo e buttare il fumo verso la finestra lo butta sopra la radio, capito? Beh, io no, quando usavo la radio non avevo gli altri HF 140, che ho avuto anche l'850 che mi aveva dato coso, quindi diciamo brigantino. Quando fumavo fuori, quando stavo utilizzando la radio non fumavo. Capito, ma io fumo, io ho la finestra aperta, è stato inverno. Tu vedi, le mie radio non hanno né odore di nicotina, né i pomelli sono gialli, niente, perfette. Ma c'è gente che fuma, a me mi hanno provato una volta una radio, non a riparare, a farle, a memorizzarle, erano sempre di queste delle nostre. E cazzo, mi faceva schifo. Gliel'ho consegnata che per poco non la riconoscevo, ma guarda, mi sono permesso di darti una pulita a questa radio. Ma lo vuoi un consiglio? Non buttare il fumo sopra, cazzo. Come il fumo? Cazzo, dentro, l'ho aperta dentro, perché mi stava venendo la nausea. Cioè, come appoggiavo il naso all'altoparlante della radio, cazzo, usciva, sembra che stava fumando la radio, capito? E trovo tutta pulita dentro, con la trilina, tutta profumata, tutta... L'ho fatta pulita, anche i tasti erano tutti gialli, tutti tosi, lavati col glass. C'è una cosa schifosa, cazzo, non si tratta una radio così. Ma anche il condensatore viene lucidato. Grazie. Viene un pistolico a consegno un piano, come ci appoggia una sigaretta, magari non è importante che appoggia la sigaretta, invece di segno già ma sta cazzo. È una cosa schifosa, Gianni, è una cosa schifosa. Anto, ti giuro come fratello, cazzo, i coperchi all'interno, li conosci, no? I coperchi del 140, cazzo, erano gialli, vera la lanetta gialla attaccata, tutta gollosa, cazzo, mi stava facendo schifo. Li ho messi dentro una bacinella a bagno, alla varecchina con acqua, per sciogliere bene, poi l'ho sfruttato tutto il glass, no? Quello sgrassante, che c'è il gallo, cazzo, perché che è molto potente, farava tutta roba marrone, tutta, cazzo, una cosa così schifosa, l'ho fatta nuova, nuova, perché era nuova la radio, solo che c'aveva una puzza di fumo, cazzo, sembrava che lo usasse dentro una stalla di cavalli. Allora lo farei, vai in cucina dove ci cucinava, è possibile, magari le sigarette si affumano, dice dalla salita del baracchino. È morto con la sigaretta in bocca, cazzo, è morto con la sigaretta in bocca. Ah, e allora proprio la caetto sull'attore. I nazionali senza filtro, fatti un gol, tu. Cazzo che schifo. Ti parlo di tanti tanti anni fa, Ti parlo di tanti anni fa. Gianni lo conosce anche. Perché di poco tosse, adesso purtroppo è morto. Ma una cosa così impressionante, te l'avevo anche detto. Infatti me l'aveva riportato, no, la verità, poi l'aveva venduto e si aveva preso il 440. Prima di venderlo mi ha detto, te lo riporto, glielo dai di nuovo, no? Vabbè, riportamelo, dai che lo ricontrollo prima di vendere tutto, gliel'avevo proprio nuovo, perché se lo vendeva così glielo tirava la faccia. E beh, chiaramente, no, ma lo so, vabbè, comunque, cosa vuoi dire in via? Ormai si sa che comunque se trova un apparecchio di una certa età, qualche graffio ce l'ha, però dalla nicotina lo graffio. Allora, guarda, io ho avuto un diciamo così, in fiera tanti anni fa, oddio, 7-8 anni fa, in fiera avevo portato una radio per vendere, praticamente se mi porto una radio dietro così l'avverso me ne compro una nuova. E quando sono arrivato da questo, che non posso fare nomi, comunque conosciutissimo un po' da tutti gli arrivatori, perché ci eravamo già sentiti per telefono, glielo avevo detto, ti verso però una radio. E quando l'ha vista, perfetta, mi ha detto, ma non fumatore? Oh, l'ha giudito, no, non fumatore, tanto brutto figlio non ne faceva. Mi ha detto, non fumatore, no, perché se questa radio era di uno fumatore non te la ritiro, perché dentro sicuramente c'è puzza di nicotina. Immaginai già di un venditore. Claro, è vero, a me capita altre volte, sai quanti computer portatili che mi vanno a riparare, che non si possono mantenere dall'odore di sigaretta, che sembra che hanno lo stesso odore del portacenere. Uguale, ma c'è scritto anche, ad esempio su Arifireta, che sono molto seri, che c'è il mercatino, no, cerco, non fumatore ti scrivono, capito? Cerco per dire FT1000, IAESO, eccetera, eccetera, non fumatore, perché se sei fumatore non te ne comprano. Immaginai già di Cantuso Maradini, presentano una radio mentre giubilo io e ti avvate in gorrida, no, alla Liguria, vai già. Io mi ho preso tempo che non sono qui, adesso però non faccio più. Sono stato tanto che non c'è. Dunque, sono per curiosità. Però dopo che sei curioso, vado a fare qualche pesce per la pantalla. Già, tu contagi, guarda, ti sto mandando la foto. Tu sei un contagiatore. Ah, io no, la bagaglia è mia. E ne ho preso un'altra lo stesso e non mi serviva, perché guarda, le faccio tutte e due a fianco, una accesa, non aspettami, perché mi allontano di più te. quella praticamente stretta è quella che avevo prima e quella accesa è quella nuova che ho preso. La fancura a me. Io mi piazzo con la macchina, c'è un po' di piazza, c'è un po' di piazza, c'è un po' di piazza. Ma lavaggio magnetico, le metti uno straccetto leggero leggero sotto, che la calamita lo prende. Puoi usare la base magnetica già, c'è bisogno di fare il buco. Chiaro, non è solo portatile, cioè che c'è la base magnetica, ma comunque, perché la trattavola non ci buttano tranquillamente. Portala a me che ce l'ha presa attata, te la buco io la capotta. No, si prende un capo. Nell'altra macchina io l'ho fatto tutto, perché aveva la lamiera molto grossa, molto spessa, e non è come le altre macchine, la Opel ce l'ha grossa la lamiera. Beh, fatto sta che ho messo l'antenna, quando l'ho fatto il buco, ho preso tutte le precauzioni, ho messo la tendine attorno, ho poligrasso, eccetera, eccetera. Fatto sta che ho piantato l'antenna, una volta sono andato dopo, ma parlo dopo 12 anni che ce l'avevo, sono andato in via Umberto e ho trovato il partito di fronte al moderno. È stato picchio il partito, sono stato adesso non mi sono accorto che ho preso una mano l'antenna e l'ha lasciata piegata. Quando sono trovata la retromarcia si è aggancata e ho detto questo qua giù, ma che cavolo, sono uscito fuori e c'era l'antenna passata per trovare. Pensavo che si fosse scollata la terra, invece non era scollata, era saltata e c'era dove c'era il buco tutto marcio. Hai visto? No, io sono contento comunque a bucare il cappotto, qualsiasi cosa sia, a meno che non è una macchina e gli vi date 350 euro. Ma per bucare la cappotta preferisco metterla al bianco, di modo che se tu si arrugginisce quella parte la puoi cambiare, ma non riesci a vedere tutto. La cappotta è una cosa più importante, dai. Lo so, però a fianco lo potevi mettere quando c'era la macchina con le grondine, adesso ti metti la base magnetica e allora la agganci. La base magnetica io non la metterei mai, la so perché ti tratta la cappotta, e questo come tu vai a tu della grande strisciare, ti tratta la cappotta, era già successo nel 127, per questo l'avevo messa la grondina e andava bene. Sì, qua c'era l'attacca grondina, andava benissimo. No. Già, ma quando fa la presciare la calamita, il magnete, la blocchi con la mano, la alzi poco a poco e te la tiri, non è che ci bisogna che la strisci, no? Un pezzo di straccio le metti già. Quella che voi alto, ma la tutta che è attaccata, se andate a 140 non ci può fare da venire. Era quell'arca, quella che c'è qui era quell'arca della vita, era la più grande che c'è. E praticamente attaccata in un modo pazzesco, tutto più trasporta, lisciarla un po' per staccarla, perché se non ce la faccio. Allora l'unica soluzione che hai già fatto un dipolo, dal palo di davanti al palo di dietro. Ma sì. Devo fare una bassa, scusate, riprendo pure. Sì. Se no che faccio un dipolo, qui la lavo un po' di cristallo, la faccio passare la cristallo da parte a No, ma puoi mettere anche il microfono dietro la base magnetica, già. Ne metti uno straccetto, capito? Uno straccetto l'avevo messo io una volta nel 147, dovevo andare a Cagliari, però l'antenna piccola VU. Gli ho messo uno straccetto, la base magnetica attaccata, straccetto fine però e non grosso, sennò deve aderire bene. Non gli ha fatto niente, ho tolto lo straccio, ho tolto la base magnetica e non ce n'era di cosa. Io quando lavo con la mia per fare tagliare e cose, mi metto quel numeretto con la calamita, io muoio, quando vedo che mi stanno per l'affare, perché ogni macchina c'è proprio, attaccavo la calamita. No, ma quella calamita è antigraffio già. È antigraffio, anche quegli affari che mettono negli sportelli di pubblicità, quelli sono antigraffio quelle calamite. Adesso che sono a letto sbagliato, non so cosa mi dica, mi ricordo però, sono dice che stavo per andare a prevedere un po' di risultato, non sto facendo troppo per fare un'attività, per le mani, diciamo, aspetta me troppo più rapido, non stavo per niente. Mi sono fatto alle 4:30 dal letto, 5:15, mi sono andato nel divano, mi sono seduto nel divano, ho letto. Non riuscivo a stare né di fianco, dovevo dormire a pancinato, non dormivo, allora mi disoccupo bisogno e infatti troppo presto mi sono sdraiato un po' per riposare. Un casino, adesso io domani è festa, venerdì mattina vado dal medico, faccio fare l'impegnativa, gli faccio nuovamente la lastra per vedere se ha peggiorato questa schiena, se è una sciatica, non lo so, perché mi prende tutta la gamba e non ce la faccio a trascinarla. E ti vai a ricoverare pure? E se è necessario anche quello. Tanto a me mi ricoverano a 60 anni, a te tu non ci arrivi a 60 anni. Ehi, la vai a Gianduia, buonasera. Ciao, ma tu prendi i complimenti. No, qua io l'ho fatta la funzione. E mi hanno detto che c'è una cosa importante alla spina dorsale, quindi quello di per fuori si fa niente. Quando passa il tempo, ma c'è un centro specializzato, sai dove? C'è un centro specializzato di benessere che ti parlano di cura di tutto così e ti hanno fatto tutto il braccio, mi hanno fatto bene. Cosa ha detto Massimiliano? Ho detto il centro di benessere già ce l'ha vicino a casa sua. C'è San Nicola e Rizzetto pure. Ehi, ve lo manicomio allora, non è un problema. Luglia. No, già io ho già le lastre che ho fatto 2 anni fa, c'ho, te l'ho detto, F5, F4, ma uno degli ultimi anni è con la vertebrale che è consumata. E quindi magari quando si infiamma mi crea questo problema, sembra una sciatica ma non è una sciatica. Poi questi giorni, ti ho detto, stavamo tagliando legna e quindi sicuramente anche quello, l'umidità e balle varie. E vabbè. Quando muoco metto in bocca, tu se si tende in bocca, è un cazzo del logo del radio. Ho cambiato il testamento. No, non ci credo. Oh. Dai, clamori. Mamma mia, vedi che c'è questo capo di bugnetta, oramai tu tanto è stato a lui, te. Ma non te la prego una volta, neanche se non ti dico. Io il testamento che ho fatto, c'è solo il nome suo, Giovetti Ricca. C'è solo il nome suo, e basta, purtroppo. Voglio che voi siete arrivati in ritardo. La voglio vedere i culmani. Tu non mi lasci di parlare, non ti culpere. No, non c'è niente da qua, non ti preoccupare. No, non c'ho il nome di una persona che aspettava che morissero, cazzo, per andare a ritirarsi tutto. Già ci riesci, ma già c'è le carte giuste per andare. Sarò manco è finito. Tu vedi le ordaglie, vedi il buono di legno. Sono 59 anni e 38 anni. E vabbè, ti fanno un annetto di prepensionamento e si è a posto. No, per quota 100 venne 62, non aveva altri 2 anni per pensionamento. Comunque si può fare lo stesso. Quello l'avrei fatto. Se c'è 38 anni di contributi, a ottobre mi sembra che fai 60 anni. Fai 60 anni e poi te ne vai 2 anni in NASPI. E se io finita la NASPI sei in pensione. Tu alla grande l'avrei fatto. Allora si appoggio. Allora scivola, stai attento, però non scivolare, capito? Poi, ma ci vediamo, hai fatto ricordare una cosa, cazzo. Scivola, ma non col piede sbagliato, no? dimmi. No, della gamba di legno, io quando ero a Nurvi. Praticamente nel vicino all'impianto lì l'estate caldissima che aveva fatto, aveva preso fuoco il cannetto e il custode vicino lì al campo, perché c'era il cannetto e il campo sportivo, il custode del campo sportivo mia è un'anca di legno, capite? Che aveva proprio tutta la gamba di legno perché aveva avuto un incidente che avevano buttato. E mi hanno chiamato i miei colleghi, cazzo, finite con un cannetto, cazzo, a parte l'impianto, chiama il vigile del fuoco, e tu cazzo, ma non vuoi chiamare Gustavo, è lunga la bomba, al campo sportivo, alto dal cannetto, ma non c'è cazzo, qui c'è la gamba di legno, si incendia Muruedo. Che sciuga! Cazzo, se mi è venuto in mente, cazzo, c'era la gamba di legno, quindi non poteva entrare nel cannetto con la manichetta dell'acqua, sennò pigliava poco Muruedo. È un casino, c'è una vicina di casa che è così, c'è la gamba di legno, ma adesso già ci sono tante protesi, quindi no, problemi non ce n'è. Gappa, e già tanto, da prendere il 1600, prendere il 1200, il 1400 per stare a casa è meglio, prendere il 1400 per stare a casa, senza valuta. Non c'è consumo, non c'è nulla. Se è così come dici tu, ci metto la mamma. Vediamo, adesso si mette su una carta, sta facendo il documentatore, sta facendo cosa, qual è la migliore soluzione. Là. Ma non ti sei messo d'accordo, non ti puoi mettere d'accordo per darti un incentivo l'azienda? Tu lascia perdere, non me la pensavo. Sì, l'azienda Canimuccia, che a me hanno detto me ne voglio andare 2 anni prima. Ma come io le parlo? Quanto vuole per andarsene, Matti? Ma a volte già, claro, lo sai da come deve fare. Lui magari il problema che c'ha, no, del piede, rientra, si va un giorno, e poi se ne va di nuovo altri 4-5 mesi a malattia. Se ne conviene di più. No, la puoi fare, ma scusa, perché adesso è solare. Praticamente ci siamo in febbraio, tutti si vedere, a febbraio dell'anno scorso, ma tutto mi ha fatto, lui fa 140 giorni al massimo. Ha cambiato tutto, arrivo. Sì, è anno solare adesso, capito che siamo solare. Se tu adesso sei in malattia devi guardare da febbraio dell'anno scorso quanti giorni di malattia è fatto portare, non devi superare quei giorni lì, se no ti dice che hai aspettato, se non ti fa pagato la malattia ti dice purtroppo così, siccome avevo fatto la malattia mi sono fatto tutti i tempi, sono andato a me e ho cercato di capire malattia, adesso non c'è più, la solo per me si è basta. Ma già, arrivato a questo punto, vedi un po' tu, cioè tanto, se c'è questo problema è inutile, vabbè, tu mi dirai, a fine mese 500 euro sono un bene in più a fine mese, però arrivato a questo punto valuta bene. Massimilia, io come ti ho fatto? Valutato oggi, ce l'abbiglia il culo. Vedi, anche se prendi un esempio ti faccio 1000 euro, ma non c'hai spese, vedi, cioè le spese nel senso, hai le spese della macchina, queste cose ce le hai lo stesso, però non hai le spese che vai a lavorare, cioè la macchina se usi non la devi usare, non la usi. E io quel discorso ho fatto, l'abbiamo già parlato, io quando ci hanno tolto le macchine, mi mancavano 2 anni, cazzo, spendevo 250 euro al mese di tra benzina, pranzi, rientri e balle varie, aggiunto toglietemeli e me ne sto a casa, e così ho fatto. È meglio, tanto alla fine del conto è quello, è lui che sale 4 volte, cioè scende, sale, cioè sono consumi. Questo è il suo consumo, ci ha rimesso la macchina, questa è la macchina che ha venduto Gianni, è che a me non mi serviva, se no per il prezzo l'ha venuta era da prendere, cazzo, una nuova, riverniciata, rifatto l'interno della cappotta, tenuta un gioiello, ma non c'era più motore, cioè non c'era più motore, c'aveva quanti chilometri già? 400.000 chilometri, forse non ho chiamato il prezzo, cazzo nuova quella macchina, tenuta molto bene. Però è chiaro che non è che poteva continuare a andare e tornare con quella macchina, alla fine non la serve a piedi. 350.000 euro, però non faccio mica, ma che è che io faccio un modello della e io ho capito, vabbè, però fino a poco tempo fa io mi ricordo facevi 4 volte, no? Sì. E quindi, cioè uno deve valutare bene, vabbè, poi non c'è solo quello, ci sono altre cose, ma comunque uno si deve fare un paio di conti e vedere un po'. Se uno riesce, se c'è il coso per andare in pensione, ti conferi, tanto. Alla fine, se non puoi fare più malattia, niente, cosa... O vai a lavorare e soffri fino a un altro paio d'anni, o se no vedi qualche scamottaggio già lo trovano. Ma ci vediamo, c'è stato Sì, 31 era 100, 165, 155 euro, algo del genere. Allora, intanto FRG 9006 mantiene uno stilo da 30 cm che si attacca dietro, l'alimentatore è un alimentatore normalissimo di quelli di portatile praticamente. C'è una cosa, l'FRG 9006 io l'ho avuto, c'è anche nella foto qua che ho dietro la porta, te lo posso fare mandartelo, nelle foto che c'è una bacheca dove ci sono tutte le foto già le viste, risultava quando è uscito sordo, però ora io non so se poi l'hanno modificato, se l'hanno fatto qualcosa, praticamente era sordo, tanto è vero che l'IAESU per l'FRG 9006 come ricevitore, che è molto bello, è anche grandetto, come ricevitore quadrato, bello, lungo, eccetera, gli aveva fatto un preamplificatore d'antenna da adattare dietro, quindi tu avvittavi, come che stai avvittando un barilotto, non avvittavi questo coso dietro dove c'è l'antenna e poi gli attaccavi l'antenna a questo coso, tipo un barilotto, che però risultava un preamplificatore d'antenna di 20 dB addirittura, capito? Adesso io ti parlo forse degli anni 2000, non lo so se poi l'avevano modificato, l'avevano tolto dalla produzione. Il prezzo che io lo pagai allora dalla Marcucci, l'avevo preso dalla Marcucci, era di 350, quindi era in lire mi pare, così è, che hanno uscito, non mi ricordo se era in lire o in euro, comunque circa 500.000 lire. Già sarà così più o meno il prezzo, già sarà così. Vabbè, ci penso un po'. No, mi voglio disfare di qualcosa qua. Fare qualche cambio, capito? Da quello là. Vedi un po', chiediglielo. Proprio con, senza nessun problema. Io mi ricordo che negli anni che è uscito quel ricevitore era sordo. È stato modificato, è stata fatta qualche modifica, oppure è sempre così? Perché risultava sordo. Io mi salvavo perché sai dove sono, quindi avevo attaccato un'antenna discone della Diamond e quindi ricevevo non segnali altissimi, però ricevevo tutto. In altre circostanze, come quando io l'avevo dato alla buon'anima di Giampaolo Silvestro, che lui era portatore e quindi zona bassa, non riceveva un cacchio. Sono rientrato. Già lo sai, anch'io ce l'ho quello lì della Daimo. E l'ho preso quando mi ho preso il coso, il VR5000 della IAESU, che poi ho dato, che forse me ne sono anche pentito di darlo. Vabbè, adesso vedo un po', se trovo qualcuno che è interessato a fare uno scambio così si può fare. Un 030 mi va bene, capito? Però il ricevitore, non. O anche un 140, cosa ne so, una cosa del genere, là. Sì. Va bene, no, quella là è eccezionale come discone Massimiliano, io l'ho avuta tanti anni e va bene, addirittura avevo quella che praticamente faceva anche ricezione e trasmissione, quindi andavo anche in trasmissione in VHF. Riprendi Anto, che mi guardo un video che mi ha mandato Gianni. Roger, sì, ciao Massimiliano, sì, ce l'ho avuta anche io la Diamond, quella che andava anche in trasmissione, l'avevo guardata a Franco Delta 1. Ciao Anto, io ho quella lo stesso, capito? Va in trasmissione fino a, adesso non mi ricordo se fino a 200 watt. Sì, l'ho presa l'anno scorso, è nuova Roma, forse l'avrò usata 4-5 volte, non di più, capito? Poi ho staccato tutto perché ho venduto, ho fatto dei lavori a casa, quindi è rimasta sul tetto ma è inutilizzata, capito? Ho voluto prendere quella lì perché avevo preso questo IAESU, questo VR5000, e per non stare lì a staccare antenne e contro antenne ho preso questa Daimo, insomma si alza 1,30 m, una cosa del genere, e va anche in trasmissione e tiene intorno ai 200 watt, una cosa così. Va bene, ok, io vi lascio e accompagno le signore, se no qua mi picchiano. Ciao Antonio, Gianni, Claudio e chi fa se l'ascolto, vi lascio, una buona serata, riprendi Antonio. Sì, Roger, ciao signore, buona continuazione di serata. Gianni, ci sei? Sì, ci sono, ciao, ci vediamo, ci sentiamo, buona continuazione di serata, dai, siamo qua, sì, dobbiamo rientrare. Claudio, ma... Eia, ciao Massimi, ci aggiorniamo, poi ti mando un audio. Belle già, belle, sto facendo vedere l'aria, è bellissima. È grande la mamma, eh? La grossa, non sai come è successo quel pattuglio, alle 5 di mattina a te c'è venuto e cominciamo a soffocare, ho capito cosa ho detto, lo sa, a lei a capo, cosa manco faccio. Compugniamo, e dopo a te c'è cosa c'è, e mi ha tirato. Dopo c'era la gabbia per il cambio, ho trovato la gabbia che c'ha ancora la faccetta attaccata e lui, allora ho preso i maschi ce la volevano fare, li faccio. L'ho dovuta separare e mettere una bacinella perché non c'aveva più un cartone, un momento. Ho messo la bacinella, l'ho tutta pulita, ho messo la bacinella, tutta la faccetta, primo piano e ho messo tutti dentro la bacinella. E sono appena nato qui, adesso che questi che ti ho mandato non ci hanno mai 5 minuti. Vabbè, E noi quando nasciamo non camminiamo, hai visto? Vedi già Brinkendi. Il giorno dopo mangiavano già pieno, tutto quanto, più piatti più. Non c'è niente da fare, gli animali sono animali, cazzo. Vabbè, belli già, belli. Avanti, Antu. Sì, Roger, sì, li ho visti anche io, molto simpatici. Solo che hanno bisogno sicuramente anche loro del loro habitat. Ma quelli sono andati in gabbia, non hanno conosciuto la tua habitat, per giocare anche loro della gabbia. E sono tirati in gabbia così. Vabbè, allora, la volta che nasci lì, sai che quello lì è il tuo, la tua casa. Pucciano la casetta, già stanno bene, non si preoccupano. Io li tratto bene, quando vado a Forza d'Italia li faccio il pieno, li faccio i bucchietti selvatici, le pietole, quando nel periodo per la barucca che fa di spirito, lui adesso non fa freddo, la prendo la spina un po', quindi non ha preso più. Quando il barucca non c'ha le spine, la mangia una nuova, quella lucca che si chiama coda di cavallo. Ho capito, sì, no? Aspetta, vedi. Davvero, gli animali sono anche molto intelligenti, molti addirittura molto più degli uomini. Sai che mi ha avvisato, stavo a fare qualcosa. E veniva, facevo sempre così stava, alle 5 di mattina, almeno mi sono andato a prendere, sono andato a fare qualcosa. Sì, ma infatti molte volte secondo cosa succede durante la notte, che magari tu stai dormendo, gli animali lo sentono, anche perché loro sicuramente hanno un sonno diverso, magari dormono diverse ore, magari sono, anch'io c'ho un gatto a casa. Cosa ne so quella notte che sono andato? Una volta che trovo sono dormito. E poi non sono mai addormentati bene, sono in dormiglia, capito? Sono sempre subito a... Sì, io l'ho visto, vedo bene solo di giorno, quando stavo smidito, e poi scavando di notte, ma a cuccia però, sai, rilassato. E si conferma. Ti volevo chiedere una cosa, ma il cavo di alimentazione è uguale anche per tutti quanti i kevo? Sì, il kevo dei com'è. Quale c'hai? Quello a treccia, quello grigio, bianco, rosso, quello lì? No, c'ho quello rosso nero, ce l'ho con chiuso 140 euro, così. Solo che mi serviva un altro spinotto, se no per mi tocca portare via anche il cavo. No, sono tutti uguali. Tutti Kenwood, chiaramente sia 80, 140, 440, 430, però anche gli ICOM, ad esempio quello del 7 dell'ICOM è uguale a quello del Kenwood, non cambia niente. Quello della IAESO no. Ho capito, volevo recuperare io uno, sono per volevo portare via anche il capo. No, sono tutti uguali, però quel capo non è originale. Non è del 440, il 440 c'è il cavo a treccia, quello piatto, grigio, bianco e rosso, sì, grigio, bianco e rosso mi pare, nero, grigio, bianco e rosso, sì, quello piatto, quello originale. Sì, rosso, è quello originale che ha i fusibili avuti in quell'affare di cose in gomma. Esatto, tu invece ce li hai quelli... quella scatoletta nera che sono attaccati all'interno. Esatto, io sì, c'ho il capo rosso nero, doppio, come l'avevo preso io tempo fa, uno per il 140 così, e aveva i fusibiloni dalla scatoletta grande, quella rettangolare piccola. Infatti tu ne hai uno solo, il fusibile sul positivo lì? No, ce ne ho due, uno sul positivo e uno sul negativo. sto leggendo qua che nel posto del primo maggio vicino a 2 euro la litro la benzina aumenta. Ma che non c'è una così, no, andare al gas. Io ando a piedi. Io già un giorno non la sono tolta quel problema. Quello la mia può mettere in moto anche direttamente a gas, perché è una nuova centralina che praticamente, non ti dico che come metto in moto, come arriva a 10 gradi l'acqua è già a gas. E anche la mia è così. La mia come scalda un pochettino, passa da turbina e passa a gas direttamente, però deve scaldare dalla turbina. Se non può dire, se non lavora tutta la turbina, il gas non succede. E invece ci sono cose che passano direttamente a benzina, non c'è un impianto direttamente a gas, non c'è un impianto a benzina, sono solo a gas. Sì, ma no, anche questa la mia, se mi finisce la benzina la metto in moto lo stesso, non è che non parte. No. Io non lo so della mia, però della Opel era così, dove praticamente è fatto gli abitudini e poi capito. Mi devo informare su questo, non lo so, però pensavo che avessi bisogno, perché parte sempre a benzina, la benzina si accende la spia verde a benzina e poi passa la benzina e poi il gradini passa a gas. Sì, quello sì, perché parte sempre a benzina? Perché tu come spegni il quadro, automaticamente nel lui la centralina del gas sgancia e quindi rimette la macchina a benzina. Però se ti capita che non hai benzina, puoi farla partire lo stesso direttamente al gas, solo che se fuori ci sono, che ne so, meno 10 gradi, non ce la fai a primo colpo, perché il gas si congela, hai capito qual è il problema? Non che deve avere bisogno della benzina per incendiare il gas, è che il gas quando c'è molto freddo si congela e quindi non riesce a spruzzare negli iniettori. Quindi cosa succede? Devi tentare più volte in modo che si surriscaldi un po' la camera di scoppio e poi parte. Comunque la mia gas va a grande, fa 170, 180, tranquillamente. Il gas sia 180 e poi sono scritto un po' per cambiare. Se fa più camminare, fa sino a 2,20. Detto da e io ho mai tirato massimo 180. Beh, qua dove vuoi correre? No, ormai non vedete più prima le macchine vecchie, quelle con l'alimentazione a gas nel monocorpo del carburatore, sì, avevano un po' di perdita di potenza, adesso con questi nuovi impianti di iniezione, la mia va meglio a gas che a benzina. La mia va acqua. Io quella che avevo prima c'avevo anche l'impianto a idrogeno. No, la mia, già, la 600 faceva un poco, ma la 347, 350 cavalli, la consuma poco, infatti abbiamo deciso, quest'anno è buff, il prossimo anno ci prendo una macchina più piccola, intanto io non viaggio più, non andiamo più da nessuna parte. 1.600, 1.500, 1.300 multijet, va più che bene, ma 2.000 basta, buff. Vabbè, io ti chiedo 2.000, dove vuoi andare? Cosa consuma qua? Io ho 147, 16 valvole multijet, 1.900, dai, 1.900 GTD, 150 cavalli, una bestia. Sì, marcia, però è nuova, c'è l'intero in pelle, tutta, guarda una vacca di là, però basta. Poi io ce l'ho 600, che praticamente non è la mia, 600 era di mia figlia, capito? La 600 è la mia figlia, però per la sicurezza le do, la usa lei quella. Bene, bene, sì, è bene, chiaramente. Sì, ecco, secondo che vado a fare una cosa. Se interessa qualcuno, su eBay c'è KR20, l'amplificatore lineare RS, la 59 non va. Che cosa già? Poi a Claudio, ho visto una cosa che mi piace. Conte scarico, quello senza... L'ho avuto, ma no, è uguale al Galaxy già, forse il Galaxy è meglio di quello. Io l'unica bella che mi piaceva del Galaxy era il Turbo. L'ho avuto un paio di mesi e poi l'ho venduto per cambia ragione, no? Non mi va di nulla. No, l'estetica mi piace più quella di Alberto Ciccioli. No, cioè è bello lo stesso, ma è troppo grande, no? Ho dimezzato tutto io qua. No, non c'ho più quello che c'era prima. Ho tolto una base, ho tolto tutto, cambi le luci. Sì, caro Antonio, così è. C'è un gara di strada Lomecco, 162 euro, ti interessa qua? No, no, no, già, baracchino non ne prendo più, non ne prendo più. Ce l'ho io un base dentro l'armadio, non ne prendo baracchini, già visto, ho già preso. No, no, no, questa è un'occasione che mi è capitata e l'ho presa, ma non ne voglio più. Oh, intanto non ne uso baracchini, già, io non ci riesco a modulare senza questa. Senti, i baracchini ho piazzato in giro d'un mese, toglievo, mettevo, anche belle modulazioni, però io mi trovo bene con questa, già. Eccomi qua. Aspetta che accendo il 430, ti faccio sentire il mostro. Alice, appena lo accendi, viaggiami. Voglio vedere che è due settimane, aspetta, voglio vedere se l'ho lasciata a 50 watt, vediamo se è di nuovo a 50 watt, perché anche quella non ha bisogno di... Entro in conversione, aspetta che cambio. Bene, già sei qua? Sì, sì, ci sono, ci sono. No, scusa, mi ero lontanato l'altro, ormai si è lontanato anche lui. No, ci sono, stavo guardando i B, stavo guardando tutti a fare. Che te l'hanno denudato, che brutto che. Sembra le maniglie e il gara che c'è tu, ecco, 162 Maria tanto buon pagato. Senti, differenza del 4,40, come rulla? È più alta, vedo più picchi positivi, da 50 a 100, va. Due settimane spento, ora. Questo l'aveva revisionato, Fabrizio. E le avevo messo il display nuovo per quello che non l'avevo dato, se no ero mezzo intenzionato a darlo, ho capito, perché era un ogni tanto si incasinava, invece l'ha messo a mano lui e adesso funziona perfettamente. Poi c'è il display nuovo. Praticamente lui mi aveva detto che era molto, molto giù di saldature, nel senso che falsi contatti, capito, quelle cose lì. Infatti me l'aveva detto prima o poi ti lascia a piedi. Poi gli aveva messo mano, aveva cambiato le sfide, aveva tutto ricontrollato e funziona perfettamente. Com'è la radio, Gianni? Più alta dell'altra? Sempre MC60, vedi, sempre MC60, vedi, anche con il MC60 lo stesso, non ho più fatto quel difetto. Va bene. Sugar, cerchi che modulazione allucinante. Ho detto da 50 a 100 sta andando, ora, qua senza neanche, sul parlato va da 50 a 80, se fischio va a 100. Ma parlato sei 8. Va bene. Certamente. Adesso lo facciamo scaldare un po', vedere se, se difetta. Vediamo se il processore funziona. Processore, eccolo qua. Allora, così è senza processore. Ora, ora. Ah, i picchi di modulazione sono alti lo stesso. È perfetto. E così è col processore. Funziona? Ah, è già viaggio allora, poveretto. Esatto, per quello. L'hai vista la foto, non l'hai vista ancora? È simile al 440, ma già molto bello. Sì, l'ho vista, adesso me lo sono ricordato. È quello che ha lavato nella sintonia con, i, con il foro. Esatto, la serie trio. La serie trio la faceva così. La manopola col foro, sì, che è molto interessante perché non vai a distruggere, infatti la mia non va nuova, perché metto il difino dentro e lo faccio girare, capito? Ma è nuova, non si muove, perfetta, bella, bella stabile. Io metto a guardare il mio 440, l'anno che va, lucida lucida la manopola, ragazzi. Cosa vuol dire lucida? Perché tu, qua ci vuoi caratteriano, caratteriano. Passione ci metto io, passione. Se ti facevo, c'è una radio VU base, nuova nuova, cazzo le cremature, pare di scendere a gas. Nuova, nuova, nuova, no, non... Io le odio queste persone che trattano male queste, queste cose. Cioè le radio le do io, le do a posto, le do perfette, nuove, no. Cazzo compra il PS50. È il primo alimentatore che ho comprato dopo il PS430, è nuovo, belle tutte le scritte, non, non c'è un graffio, nulla. Certe cose le tiene bene o se no... No, presso, non oggi mi hai buttato io presso. Una volta per stare segni ho messo 140 sopra il sedile a provare. هذه حوارات مفيدة بين العناصر في الطبقة الماء والمطر الهواء والخيال الكوزي اسبانيول نعم جان تريندا ليات الفجر كده كده كده E uno spagnolo che lascia prendere i golpi. Davvero, sbatte? Ma ho sentito protestare. Siamo già 30, menù, molto tamara pulita, fogata a bagno. Il salì bell'axi e poi giù. Ma ha giù una uova che ha fatto il fatto di fare il ribassa, la vega ribassa. العاطفة والشعور العام المشترك بين جميع البشر والذي يتم لإقامة العلاقة cioè domani 25 aprile, aprile se ne è andato, dice che il primo maggio fa anche brutto. Ah sì? Io spero che non ci sia caldo, aspetta che lo abbasso un pochino, lo mettiamo, ecco qua, meno di 2. Perché era 2 il Michigan, se no è troppo alto e sente troppo, troppo rumori sottofondo. Quello lì sia, gli aurita c'è un gili celi, lì. Bene, bene, bene va. Vediamo il segnale, se sale, la potenza. Il sugar. Ah, che questo l'avevo tirato un pochino, l'avevo fatto io. Ma non lo so, no, non lo so, non penso comunque, perché il 430 te lo metti un po' più, si può fare qualcosa in più del 440, più meccanico, hai capito? Aspetta, tolgo il processore. Ecco qua, la potenza è questa, eh. Ecco, adesso ho attaccato il processore, no, per regolarlo bene. L'ho messo a 20 watt, 25 watt, dai. Sì, sì, riportante, 25 modulati 50. L'avevo lasciato così, l'avevo provato, l'avevo lasciato così, ma non c'è bisogno, già va bene a 25 watt, è finta che è troppo, è giusto per farlo scaldare un po', ho agghiacciato, domani carli. Accendere a 20 watt, non tre conversioni, Anto. Il 140 è due conversioni. Cazzo, prima di caldi bisogna farli un poco. Io lo odio quelle radio. Se 80 e 140, solo per quello, sono belle radio, funzionano bene, ma non mi piace, perché lo devi accendere prima, se vuoi uscire bene, devi regolarlo poi a caldo, poi più parli, più scalda e più si manda in affanculo. No, il 440, no, il 440. 20 le dai a freddo e lo spegni, quando è caldo sempre 20 watt, non cammina la potenza, se 80-140 sta sempre salendo la potenza, quindi sta sempre abbassendo. Vabbè, ma tu c'hai tutto sotto controllo nel 440, perché dove c'hai il selettore LC, power S1+R, lo metti in power e lui ti dà la potenza giusta, perché se tu guardi nella scala del power c'è 0, 10, ok, 0, trattino, che è praticamente 5, 10, poi da 10 fa 5, 10, poi dopo 10 fa 20, 30, 40, 50, capito? Poi io aspetto, quando l'ho riacceso, pensavo fosse a freddo, perché non stavo uscendo, invece non stavo uscendo, perché non stavo uscendo, perché non stavo uscendo. Sì, sì, sì, ma tu la potenza lì sul power dello smitter gliela dai a 10 watt, lo controlli con il wattmetro esterno, ti segna 10 watt, sono molto precisi come strumenti. Io infatti ho la T230 esterno, ma lo lascio in SW+R, quello, no? E il power della radio lo lascio inserito per vedermi i watt che sta dando la radio, sono precisi, capito? Anche se devo controllarli con gli occhiali perché non ci vedo una mazza, però già si vede che è preciso. Ti faccio la foto dove è il DAC e so sopra l'armadio, sopra l'armadio, coperto sopra l'armadio. E intanto una luce, è inutile tenerlo in mezzo alle balle. Un secondo vi rispondo al telefono. موبيليي ومصمم داخلي ذات مرة شهد بحادثة تقليدية عرقية في معرض قديم في فرنسا وشعر بالدهشة من عملية خياطة طيات الملابس وبعد ذلك قام بتطبيق الطيات على تصميم الأزياء والتصميم الداخلي ويقول اسماعيلي أشعر بأنني على اتصال مقدر مع ملابس مياو لقد وقعت بها من المرة الأولى أتطلع على زيارة ويديو للصين لأرى بأم عيني كيف تصنع نساء مياو تلك الأزياء الجميلة وهنا أحضرت بعد Non ho capito niente. più di natta, cosa è più amplificato? Abbassa. Ma cos'è? Che radio è? Non è bella la modulazione, non c'è. C'è Gianni Doppio Rumo e Antonio Riserva. Già, vai, lo senti bene. Comunque uguale, piacere sentirti. وحاول أنسى قولها بلغة صينية. الأولى، ما الأمر؟ لا تدخن هكذا. Sì, già, sono qui, solo che sono riuscito a sentire tutti i comandi, mi sento quasi in imbarazzo. E spiega, lui diceva Gianni che io sono andato con un'antenna di macchina, quindi... Sì, no, gli avevo mandato un messaggio già, poi già ti chiamo io e che ti devo chiedere delle cose. Oh, ne ho sentito un pezzo già, un pezzo sì o un pezzo no. E ha detto che ti ha richiamato praticamente e ce l'ha sentito. No, non ti preoccupare, già mi faccio sentire io magari in settimana. Ho sentito tutti. Ma come quella presenta? Ma cosa ti avrei fatto lasciare il treno di porta non può guardare troppo? No, vai che non è. Oh, già. Ma sta parlando? Sì, a quanto è arrivato un passo di segnale, Santiago 5 è quanto è arrivato. Non è segnalissimo, come mai così basso? Poi fa 5 da me. Per me è 60 euro. Allora, stasera è 200. Sì, da 4 a 5, sì. È un segnale basso, non è il punto. Cavolo, si è rientrato. Magari però ti ha ascoltato il fuoco, però... segnale che avevo. Diciamo che con la radio vici fa forte il radio dopo di che trova messo. Oh già, scusa. Ehi, dai, io vi saluto che devo staccare tutto, che sto andando via da qua. Niente, ci sentiamo al limite se riesco a fare qualche cosa su a casa, se no alla prossima volta che scendo qua. Salutamolo tu a Gianni Di Muros, quindi che al limite ci sentiamo per casa. Buona serata, saluta anche la tua, non rientra, ma non facciamo la parte tua. Ciao. Siamo qua, ci dovrebbe entrare, se dice a smanettare, bene, per KP2 ti saluta, con il riserva, ha detto che già ti chiama lui, ok? Oh, ci sentiamo dopo, c'è gente. Sì, andrà. No, già, sono fermo, sono in malattia, te l'ho detto cosa c'ho. Ho avuto l'ispettore al piede, mi sono guardato lui, l'ho detto manca poco, e come facciamo a fare lui? Ho lavorato 50 punti, e poi non sono passato io, non ci sono manca a piegare. Ma la prima volta mi ha abbandonato un po', io sono di due lì, ma già neanche in questo studio non ne ho mai avuto. Una semplice sciarpa che mi trovo a distruggere, faccio iniezioni, per due iniezioni di portare a muscolo e ti passava. Poi ho fatto quest'anno di portare a muscolo. Ho messo volta 22, ho messo i cerotti, quelli che ti scaldano la parte e anche quelli che mi cadono. No, ho campato un piede, sempre di soldi di ospedale, ho avuto 55 euro per farmaciotto. Vabbè, interessante è che dopo il tutto il tempo per essere. No, semmai la cartilagine che si può essere consumata con ginocchio, non è per il menisco. Se il menisco deve essere a parte che non si rompe, che si spacca, perché il menisco non è altro che una spugna, praticamente un corpo spugnoso, che praticamente quando tu salti, per dire, dice il corpo, ti fa da un pesatore, vengono portando se là. Non è niente di non è un corpo osseo, ma è un corpo di signore. Manco io, ma di quanto la certezza ci avviciniamo. Siamo da dei pulite. Adesso il tavolo ti demolisce e ne prende 2 da 30. Lo so, in Germania lo faccio, in Germania lo facevano da tanto. Io avevo un amico in Germania che mi ha detto che funziona così. Il cittadinanza in Germania c'era tanto, non è chiamato così, però è la stessa cosa, ti danno i soldi, poi tu cerca le lavoro, c'è primo la gente e ti prendo. Ti prendono i soldi, non ti danno. E diciamo che bisogna anche pensare alle famiglie che c'è in contatto, e beh, però ci sono famiglie che il marito ha perso il lavoro, magari è grande, non trova più lavoro, e chi vuole aiuto non vuole dallo Stato, no? Ma sempre lavorato, non è? Che sei in ufficio, poi la fanno grazie, tanto si risperdono in droga, basta, invece ci vanno anche loro, ci vanno anche loro, anche io sono ancora a Pizzi, sono ancora a Pizzi, adesso mi sono andato, sto camminando con le stampette, c'è qui, c'è il trasporto, e così, fa male la gamba, eccetera, eccetera, poi è un casino, purtroppo già siamo così, siamo soggetti a queste cose, speriamo che passino subito, io qua mi auguro di dire che passa, sto già facendo la domanda di pensione, mi dico di andare qua, perché non ce la faccio più, tra il piede, la gamba, non ce la faccio più, insista a voler lavorare, quando tu non ce la fai. Adesso mi è venuta anche a Marco al piede, c'ho questo, c'era che non si chiude, e forse infezioni, mi porta tutto, cosa la devo fare? Devo cambiare con la scaffolta ortopedica che è aperta, al lavoro si possa andare con la scaffolta ortopedica e mi peggiora la situazione, capito? Il problema è questo. Se non ce la faccio, me la devo andare, non basta, no? Non ci voglio più pensare. Tu guardi gli anni incontri. Io ne ho 38 anni, 39 anni non ne faccio il prossimo anno. Sì, che se hai la salute, va bene. Tu quando la pieghi la salute non ce la fai più. Andare, dopo già, io ti saluto adesso, mi vado, ho questo dolore fortissimo che non ho passato niente. Mi porta per che sembra che sia come quando si viene il crack, ci metto esempio, fuori dentro la cuscia, allucinante, guarda, casino. Vabbè dai, pagiamo gli attacchi a voi, speriamo che si rispetta subito e che farà tutto bene, dai, non riesce a fare, quindi non è sempre tutto la nostra bene, e poi dopo un pugno è bello sereno, va. Ciao, ci sentiamo, buona serata. C'è nessuno? Attention, gara 10. Aspetta, arrivando a te, un minuto. Eia, sono a casa. C'è la gente in mano laterale, sto portando il cane, sono rientrato adesso. Sto andando col 430, ma è tanto Antonio che è più forte la radio. Va bene, va bene. Yeah. E lui è manda. Ah, tu hai. Ok, dai. Vabbè, arrivo subito. No, perché quando l'ho accesa era troppo forte, cioè col Michigan fosse in banda laterale, l'ho provato. Adesso l'ho messo più o meno a come 4,40, un po' più alto questo rimane, questo è a 3, l'altro è a 1,5, 2. Va bene, ho la potenza era un mese spento, l'ho acceso sempre a 30 watt, tre conversioni così, 140 si è 80 la devi gaggare, prima di cardi vivo un anno, lo so, va bene, sono qua, dai. E adesso mi sto cambiando il riposo. D'accordo. A proposito, Anshan. Oia, lo vedi? Questo mi stavo mettendo il pigiama. Oh, ero in banda io. Ah, esci un gatto quanto si intende lo vuoi, sta sciogliendo i capelli a rana, è l'aria. Vabbè, no, questo non mi disturba, magari nell'altro. Sentivo il fruscio, questo è diverso. Ente, lui. Beh, la comodità lo vedi qual è. Ciao, la Iana. E si tende i bisogni. Vabbè. Esce bene questo. Questo aveva tutto messo a posto Fabrizio, ha cambiato anche display nuovo. No, va bene, va bene. E quello è la recezione, questo come lo senti? Sì, questa è una favola in recezione. Io penso che il 430 sia la migliore, perché a comparazioni fatte, ma non dico sono io, anche altre che l'hanno provate, tra il 440 e il 430 c'è un abisso, c'è un ricetrasmettitore che è la fine del mondo. Ti sento, sembri qua. Quindi va bene come radio questa? Ehi, alla grande, non bene, no. Antonio sì. Antonio. Ehi, il microfono di Antonio c'è, cosa stai usando? Ehi, il mio, più 5. Il più 5 nella radio di Antonio, nel 440? No, io questo sto usando il President, sono a casa. Il President stai usando, minchia cazzo, aspetta che è comodo col 440, voglio vedere la differenza. A me mi sembrava col 440. Aspetta che è comodo al 4.40 dal 4.30 per vedere. Ogni tanto o si mette a posto oppure non so cosa dirti. Forse è arrivata mia moglie, vincente cane che stanno abbagliando. Prova. Ho detto ogni tanto o si mette a posto per la radio. Cosa vuoi dire? Ho fatto andare un po' in banda e adesso mi stai dicendo che va bene. Cazzo ti, se non me lo dici io pensavo che era il 4.40. Minchia, cioè boh, allucina. Cazzo, ma chi sa radio è davvero mancante. Sembri col 4.40, uguale, precisa identica. Andare, vedi, non so cosa dirti, forse quando scalda, quando. Adesso lo voglio fare sopra accesa, ecco, anche. Fortissimo la radio, bella, compressa. Cazzo, sembra che stia usando l'MC60, infatti ti ho detto, ma D'Antonio sì, perché il segnale è più basso. E mi sembra che a casa D'Antonio provando l'MC60 tuo. No, no, no, ecco, non provvede. Ah, Pietro viene a prendere solo. E non c'è venuto. Ma quello è vecchio, il coso lì, il commutatore, capito? L'interruttore, quello è vecchio, basta che lo dissolda e lo mette nuovo, basta, il problema è risolto. E allora, sono passato un attimino dai cinesi, che dovevo prendere una tastiera a Gabriele per il computer, e sto guardando anche quegli interruttori, ma non ci sono. Cosa ne ha Antonio? Sì, sono semplici interruttori accendi e spegni, sì, ce li anche Fusaro, guadagno 50 centesimi. L'avevo sostituito già uno io, anni fa, no, un MC60 mi aveva rotto le palle. E poi non l'ha fatto più, capito? Perché all'interno c'hanno un carboncino avanti e indietro, no? Che praticamente disinserisce e inserisce il circuito di preamplificazione. Evidentemente quello si è consumato e si già raggiunge a fare di falso contatto. Ho capito, capito. Ciao, Monello, dove vai? Santa. Era in bicicletta adesso. Marisa, in bicicletta sta andando? No, Nicolas, Marisa la fa seguire da piedi. Ah, facciamo che vanno in bicicletta, Marisa. Io la giungo un po' la danno alla bicicletta. Prima l'ha provata nel piazzale, sembrava che andasse bene, è uscita una strada e si è fatta un cancello. Ha detto che non si siede più. No, io me l'ho regalata una roba nuova dalla cacicchiata. Vendeva un euro prima, caffè, un caffè, boh, cosa del genere, ne era bella. Però al manubrio, anziché avere il casco manubrio della bicicletta normale, c'era largo, però poi alla fine ne così si stringe, no? La bicicletta da passeggio. Ma via mare vi dà, ma io ho un manubrio lì. No, no, io l'avevo comprata da donna, di quelle belline, sai, anche per andare a fare due commissioni qua vicino, andare a prendere il pane, il fruttivello, giusto per farci una passeggiata. Trampardo ha detto che lei non si siede più. Aspetta un attimino, grazie, ci vuole, mi serve, non era almeno la cabina che doveva attaccare una tastiera. Guarda che ti ho mandato un audio come stai arrivando, guarda, cioè, cazzo allucinante sta radio, allucinante, cazzo se non me lo dicevi pensavo che eri col 440. Vabbè, non mi è arrivato niente ancora, stamattina, arrivo subito. E io? Allora. Claudio, passa in AM, io sono in AM, passa in AM. Sono Gianni, Claudio, mi copi? Sì, che ti copio. Capa, buonasera. Stavo dicendo che oggi c'è un bel aburotto. Ah, ma non eri tu in banda laterale? Sì, con la macchina, la macchinetta del caffè entro in banda laterale. Io già avevo, basta che fai ui. Minchia, su tutti i canali si sente aburotto, ragazzi. Salita la propagazione. C'è un bel di propagazione, salita la propagazione. Me ne accorgo. Come mi senti già rispetto al 440? Questo è il figlio, 430. Come va? Fotocopia. Fotocopia? Ho abbassato anche leggermente la preamplificazione. Il PC ti avrebbe sia allo stesso livello, sì, più o meno, più o meno siamo lì. Bene, ho sentito l'ultimo, ho sentito Attino qualche secondo fa e mi stava già facendo mal di testa. È un bel forte, Attino ha delle belle radio, ha degli abbinamenti molto forti, io se non me lo diceva pensavo che stessi usando la stessa radio uguale a questa. Vabbè, io ho difficoltà a capire cosa dice quando tira così. Perché voi siete più vicini. Ho visto dove abiti tu e praticamente sei di fronte a lui, da me è molto più distante. Già, sì, veramente quando tira su quel microfono, cazzo, non mi dà, cioè non riesco ad ascoltarlo, proprio non si capisce niente. Ma tu in quella radio c'hai l'NB qualcosa, qualche filtrino, qualcosa c'è? Non c'è niente, qua, c'è solo lo squelch, boh. Il volume è lo squelch, perché se avessi avuto l'NB, eliminando l'NB forse riuscivi a eliminare quel rumore, capito? Eia. Sì, quando tira su troppo diventa fastidioso proprio da ascoltare. Comincia il casotto, sta. Poi, Fra, avete ordine, c'è un bel propagazione. Ecco, mi ha fatto tempo brutto, adesso sta uscendo il sole, e quindi c'è un bel pairato, lo skip è molto alto, e si sente. Capo, me ne sono accorto. Ciao, Gianni. Ciao, Franco, ben sentito, buonasera anche a te. Capo. Speriamo non aumenti parecchio, sennò ti perdiamo qua. Vabbè, pazienza, adesso non ci posso fare niente, va bene così, già si spostano gli altri. Capo, va bene, avanti qua. Un legnarettino già, ce l'abbiamo dentro l'armadio. Quando comincia a dar fastidio la propagazione già. Noi mettiamo un amplificatorino leggero, una cinquantina di watt, quella boomer mi sembra che tiene 100 watt, quindi si addamami. Quando vai l'antenna della macchina, perciò una cinquantina di watt e vedi che il basso è la macchina. Ero sul poco fa, adesso mi ricordo se era sul 23 o sul 17, c'erano dei francesi che stavano arrivando proprio cazzo fortissimo. Arrivano forte sì. Che alimentatore c'hai tu già, piccolino, no? Guarda, è un alimentatore di tipo quelli da PC, gli ho fatto una modifica, perché adesso ho a disposizione solo quello, gli ho fatto una modifica, 12 volt e mezzo e credo che sia da 4 o da 6 ampere. Piccolino, per alimentare un 747 ci vogliono almeno 15-20 ampere. Va bene. Io sto andando col 4.30 fra, va bene, sì? La voglia, perfetto. Un'azione abbastanza bella forte. Sì, ce l'ho a 9.5, 2 neanche. Il Mickey Gain, questo di solito per pompare deve andare così, più o meno a questi livelli, così a 2, da. Già va bene. Poi con la tua timbrica arriva abbastanza forte, non è quello. Ti spinge, non è il microfono, sei tu che spingi. Ah, lui sì, fra. Allora cerchiamo di parlare piano piano, vado piano, hai sempre la stessa tonalità, anda bene. Gianni, hai usato una mossa. Guarda, considerando che adesso con lo strumento riesco, praticamente sono manca proprio un pelo ai 4 watt effettivi. Qua arrivi sempre un segnale di 7, la radio, diciamo, adesso ogni tanto c'è qualcuno che ti supera, ma poi per meno ti capisco, là. Sono io, sono Piccolo Baffo e Nero, buonasera. Buon Marino. L'ho ascoltato, Claudio. Va bene. E vedi tu? L'ho sentito adesso. Vuol dire che ogni tanto si sveglia. Franco. Capo. Ciao Tino. L'ho ascoltato. Capo. Fatti due QSL, Tino. Sì, mi dicevano, one bike, please, one bike. E lui è. E poi vai a comprendere tu. Vabbè, ma almeno mi hanno sentito, quindi se mi hanno detto di stare un attimino calmo, di dargli un po' di bianco, se ne vedete che stavo dando fastidio. Quello sì. se ti hanno detto così vuol dire che hai tanto fastidio. Ehi, vabbè, come arrivano loro sicuramente li arriviamo noi, eh. Vabbè. Ho messo più 5 al 440, come va? Bene. Guarda, se non me lo dicevi non vedevo neanche accorto. Sembrava MX60. E tu non hai detto nulla a Franco, tu non hai detto nulla, tanto che se non me lo dicevi, io non me ne sarei accorto di. Guarda, adesso sono sincero, Franco, non so se se sei svegliata la radio, se non lo so. Ogni tanto c'è basso, ogni tanto c'è salto, adesso sto facendo così con quest'altro microfono, quindi te l'ho lasciato. Questo è l'inco. Ma davvero? Non pare un 440, va, la modulazione di Tino. Se non lo diceva io non me ne sarei accorto. Guarda, per me stavo usando il 440, stavo usando, per conto mio, con le 1060. Era una modulazione. Cosa vuoi dire, va? Ogni tanto anche lui si sveglia, dovrebbe essere. Vuole farsi esprimere. Gianni. Ciao Tino, buonasera. Ok, ma non è che l'hai messo vicino al fiasco di vino? No, ho provato a attaccare 60, invece le priorità del 60 sono andate a finire dentro il carretto. Non ce l'ho fatta a farle uscire e se le ha prese il più 5. vabbè. Avanti già. Ehi, ciao Tino, buonasera. Buonasera, scusate, Tino, non puoi fare il canale. Mia radio che va. No, ho detto, come va questa radio? Come va? Come sempre? Sto usando il 440? No, sto usando l'MB più 5 col presente. Come senti? Per me era la 440 con la 1060. Ok? Aspetta, la modulazione è bella, mi sembrava proprio del 440. Anche a me, infatti. Ci stavo cascando, se non me lo diceva lui, per me è fatto, gli ho detto, sì, sempre la solita modulazione, te l'avrei detto. E poi ci mi ha detto che era l'MB più 5 col presidente. Vabbè, noi due comprendini, Gianni. Gianni Abaccone, come ti si dice? Vabbè dai, almeno tutti questi test sono serviti a qualcosa. Sì, sono dei test importanti perché poi vai a capire che a volte una radio si può mettere a posto anche da sola, nel senso che magari ha qualcosa che poi lui ha fatto un paio di passaggi in banda laterale, è passato un M e è cambiata la modulazione. Ma vuol dire che si è svegliato come dice lui, come dice Tino. L'ho fatto andare, adesso ci ha spinto più del dovuto magari, e si è svegliata. Vabbè, meglio così. Ok, dai, ragazzi, stavo chiamando a mangiare. Ci sentiamo, buon proseguo, dai. Buon proseguo di serata, come faccio correttivo. Ti prendi Claudio e fai girare, ciao, buonanotte a tutti. Ciao Fra, ciao, grazie per essere entrato a salutare, buon fine serata e buon tutto, eh. Guarda, sono Martinelli, sono Fullendi, sono Fendi, è un casino di Gesù Cristo. Adesso torno a chiudere la porta, riprenditi. D'accordo. Ciao Fra, ciao. Buona carica, buon tutto, buon fine serata. Ci si riascolta le prossime. Gianni, avanti. Ehi, ciao Franco, ben ascoltato, dai. Ci si aggiorna quanto prima. Volevo dirti una cosa, se riesci a parlare un po' più lontano al microfono ti capisco, perché sennò da me risulta incomprensibile. Va bene, io vabbè, sto parlando un po' dell'altro adesso, sono un po' più distante. Ok, adesso ti ho capito. Cazzo, che bella che così ti marona santa, cazzo. Ma vedi, c'è il problema che tu hai una radio seria, un altro una radio seria, qualcuno ha una radio meno seria che riesce a vivere la colonia, perché magari non sopporta la timbre, la tonalità, e quindi è sempre un problema. Ti metti a toccare magari il socio a te e va meglio a lui. No, no, non a toccare, voi siete anche più vicini. Ma è bella veramente, cazzo, bella veramente, ti minchia, adesso te l'ho fatto ascoltare, ma il passaggio che hai fatto così corto, c'ha degli acuti favolosi, è molto bella. Vabbè, io sto ricevendo 4.30, chiaramente il baracchino che c'ha Gianni, un vintage, vintage più vintage che non si può, magari comprime, fa, non c'ha neanche l'NB, è una radio molto vecchia. Se avessi avuto una radio un po' più seria sicuramente ti ascoltava molto molto bene. Ah sì, successo ieri con Marco, stava provando una radio vintage, ma detto mamma mia che radio brutta, volevo fare la differenziata, mettere da una parte, poi l'ho presa, ho preso attaccato l'altra, poi ha preso un'altra radio, ha parlato con un'altra radio un pochino più seria e ho riattaccato questa, senza dire niente. La cazzo che andava avanti. E quella che boccati viene per buttarci. Sì, ma è così, sì, è così, io lo stesso, se dovessi adesso attaccare il baracchino, ascoltate che l'Herbex c'ha una bella ricezione, bellissima, molto seria quella radio, molto molto seria. Per dire, ti ascolto magari diversamente, ma non penso che sia brutta, perché è proprio bella la modulazione, veramente molto corposa, molto bella. È che Gianni ha una radio troppo vintage e quindi è chiaro che lei comprime la modulazione, riprendi già. Va, sto facendo una cosa, sì, vabbè. Adesso vai, ho perso il filo del discorso, mi sono distratto un attimino. Ha giudito che aveva una radio troppo vintage, per quello che lo senti così, capito? Se avessi avuto una radio un po' più, non dico seria, ma un po' più giovane di quella, con qualcosa in più, magari con l'NB, con qualche filtro, eccetera, no? Quei baracchini tipo quello che ho io, che c'ha un po' tutto, l'avresti ascoltato molto meglio già. Sì, sì, quello, su quello non ci piove, quello è garantito, no vabbè, giustamente io ho questo, devo ascoltare, ascolto con questo e quindi faccio praticamente un referto di quello che sento, capito? Poi chiaramente non è che gli altri si devono adeguare a me, io faccio solo una segnalazione, poi per il resto già lo sai, problemi non ce ne sono. No, ma assolutamente, è chiaro che noi ci dobbiamo adeguare a chi ha delle radio inferiori, nel senso che sono più vecchie, più vintage, eccetera, no? E quindi ci dobbiamo un po' adeguare, se ce la abbassiamo, se ce la staccare qualcosa si stacca, giusto per farci capire, perché è normale che se uno ha una radio professionale come la mia, come quella di Tino, come quelle che ce ne sono tante in circolazione, e inizi a tirare su potenza, mic gain e quant'altro, processore inserito, magari tu vai ad ascoltare un po' male, e quindi bisogna adeguarsi, e se no è inutile stare a fare QSO tutti assieme, capito già? No, su quello non ti preoccupare, poi ti ripeto, verrà nei tempi migliori, no? Adesso piano piano sta iniziando a avere qualcosa in più, se si procura un baracchino più serio di quello, stai pur certo che già lo piazziamo, tranquillo che lo piazziamo. Ma infatti qua non ci sono problemi, cioè già siamo qua tutti insieme, nel senso che se si vuole fare un QSO già non costa niente, voglio dire, abbassare un po' meglio, quindi voglio dire, non ho capito, quindi se fossi stato io dall'altra parte avrei fatto la stessa cosa, quindi non ci sono problemi, capito? Era giusto una segnalazione, niente di più e niente di meno. Poi già lo sai, no? Come, cioè, freedom, libertà, tranquilli e sereni, quindi no problem. Sono ritornato, Sì, vabbè, ma per stare tutti assieme è chiaro che non avvicinati, io mi ricordo negli anni passati, e Tino lo sa, la Bolanema di Mario Mao con Gio Maria Figaro, le antenne praticamente 2 metri una dall'altra, nello stesso palazzo, capito? Le antenne nello stesso stabile, eppure parlavano sempre assieme, non hanno mai avuto un problema, un litigio. Cercavano di combinare bene le cose, piano piano si facevano la chiacchierata, quindi perché non farlo anche noi se uno ha necessità di ascoltare meglio, per carità. Sì, c'era la Maria Romario qua, erano giorno e notte, facevano questo, poi andare a sopravvolare, come facevi? Sì, ma non solo lui, c'era Boema e Gavino anche, Pace, erano tutti vicini, ho sempre avuto praticamente non capivo come facevano, però hanno sempre condiviso le cose e si sono sempre fatti i questioni tra di loro tranquilli e sereni, quindi si ascoltavano, già capito. Quando purtroppo si è vicini, così, io con Antonello quanti anni abito attaccato, siamo a 200 metri l'uno dall'altro, io dal terrazzo vedo la sua antenna, lui vede la mia, però non abbiamo mai avuto problemi. Quando dico Antonello abbassa che mi si ammazzendo, lui abbassa, la stessa cosa fa lui con me, però è chiaro che si condividono le cose, no? E se no è inutile fare questo, riprendi. Eia, sì, tutto è tutto abbastanza chiaro, è limpido, è uscito l'usorio oggi che è sequato e si è nascosto di nuovo, vabbè, è in fase di tramonto, cielo grigio, non so se ha messo acqua anche domani, domani è nuvoloso, è venerdì che c'è di nuovo pioggia, mi sono rotto le palle, io c'ho un sacco di cose da fare, ma veramente un sacco di cose da fare, non c'è più convenendo un accidente, capito? Sia qua a casa, ho da fare giù nel giardino di casa che ho preso un impegno e poi devo fare un sacco di cose in campagna che ho preso un impegno anche lì. E invece sta sempre piovendo, dove vuoi andare? Aspetta che faccio la telefonata, dico di mandarti un raggio di sole, almeno pure sei tu. Sei entrato, lo vedo. Tu che? Vuol dire che non vuole entrare. Non ho sentito. In un ottimo periodo facevamo la danza della pioggia, capito? Ma non esiste più. Tu non ci credi, ma mi ha presa più di una volta, la faccio fare, perché c'è l'integrazione, no? Quindi ci speravamo, se non c'erano altre giornate grigie. Io uno ne avevo di collega di lavoro che era nella mia squadra, tutte le volte, fermo figo, già mi c'è l'inglese di diti dei birri, cazzo, tutte le volte che praticamente era nuvoloso, che magari arrivavo io, mi oggi ci prepariamo quello scavetto così, arriva la turitana e mette il tubi, tra un'ora va zero, tu mi ci bindaccio un volta il nome, aiuto, ve ne siamo a preparare, sarebbe la turitana. Mica piove qua, mica piove, oh cazzo, ogni volta che diceva mica piove, manco un'ora passava, ogni abbassata aveva, la mazza che te ne varia. Vabbè, ma è così, cioè perlomeno è così, era così, adesso non vuoi più, prima era così, bastava che un po' di acqua, e ti azzeprimava, c'è l'integrazione, quant'altro, adesso sono finiti anche quei tempi. Vabbè, è così, però come fai a indovinare? Ma si vede qualche volta io ne dico non stendere, guarda com'è la giornata, non stendere, mica piove, infatti piove, però si vede che sta per piovere, non è che hai culo a fare avanti la pioggia, è così, quando la giornata è così, non c'entra a fare. Domani ha dato nuvoloso, qualche straccio di sole, però venerdì ha dato di nuovo acqua, sabato ha dato acqua, domenica ha dato acqua, ma cazzo, chissà che viene a volte, ha fatto il poveddo, riprendi già. Te l'ho detto che ne ha sino a fine mese, quindi bisogna accettare bisogna accettare questo, cioè abbiamo visto che insomma intanto aprile è agli sgoccioli, quindi a futtettini dai, già passa. Sì, se vuoi passa, se no si arrangia. Aspetti che cambio, voglio invertire gli MC60 che ne ho uno fermo, non vorrei che facesse il difetto che sta facendo Antonio. che è dentro l'armadio, lo tolgo e lo attacco qua al 430. Aspetta, che prendi qua un Gianni. E Gianni, sì, sì, adesso è, adesso ti capisco, ti è, prima proprio non ho, sentivo solo un trapano, capito? Quindi bu, non si comprende nulla. Adesso riesco a sentire quello che dici. Vabbè, ho messo una cassa esterna, magari una cassa dove magari riesce a nascondere un pochino la ce l'ho la cassettina esterna, l'ho messa proprio apposta per in modo che avesse praticamente un audio completamente diverso dall'altoparlante che c'ha sotto, capito? Quindi adesso la cassa ce l'ho frontale, proprio davanti, quindi riesco a sentire meglio tutto. Bene, meglio. Ma Antonio, se n'è andato? Sì, forse sicuramente se n'è andato a già tardi. Da parecchio, io ho acceso per un attimo, l'ho sentito con doppio room, ho acceso, ho sentito un paio di passaggi, poi ha staccato e è andato via. Infatti, e poi sono dovuto uscire io, accompagnare a Gabriele al campo per fare delle commissioni. Allora, già sta uscendo, sì. Oh, questo sento più il tocco del coso, come si chiama, del lock. Sento tac tac. Sì, si sente. Lo sento anche io. Vabbè, quindi allora vediamo di dare un colpo sotto. Ecco, così è chiuso, vedi? Però la modulazione esce, mentre così è aperto. Ora. Perfetto. Sta funzionando anche questo. Perché ne ho tre sulla scrivania e uno ce l'avevo dentro l'armadio. Ma tu esci che lo tolgo, lo faccio girare, non sa mai che faccia il difetto che ha fatto a coso, ad Antonio, capito? Che cosa? L'attacco del pulsante, dici? No, ho detto il microfono va bene, sta funzionando bene anche da te. Sì, perfetto, va benissimo, come al solito. Ok, dai. Allora lasciamo stare. Facciamo viaggiare anche questo. Va bene. Di nave Luciani. Microfono, io non avevo mai radio. Di nave che non vedo più. Lasciamo perdere, va. Tutta questa propagazione, come ti sta arrivando? A me? Io ce la sento sotto, ma non ti dà fastidio a te. Io ce l'ho quasi su tutti i canali, sento sempre gente. Sì, vabbè, ma in banda però. Sì, anche perché non posso andare da nessun'altra parte. Quindi poco fa ho fatto un giro, c'era gente quasi su tutti i canali. Sì, non lo so, ma via. Sì, vabbè, ancora è normale, anzi ancora è poca la propagazione, aspetta fra un po' quando inizia a vero. Non ce ne sarà per nessuno, così è. No, è una rottura di palle, secondo i segnali che ci sono disturbano tantissimo, soprattutto gli inglesi, i francesi, gli spagnoli, capito? Però cioè, ci difendiamo bene lo stesso. Bene, ho sentito anche qualche tedesco io poco fa. Ehi, tedeschi già ce n'è, tedeschi di Germania. Ehi, a Kartoffeln. Allora, l'altra volta ce n'era uno, è entrato qua nel canale 10, fatta asciutta, paragli tu vai, Kartoffeln. Ehi, già me lo ricordo. Solo che poi stava iniziando a rompere palle, si è messo a fare questo col suo amico. Allora gli ho dato un giro di cimbrana e non è bastato. Allora così, allora, ho commutato, ho messo l'antenna alla direttiva di 10 metri e l'ho puntata sopra. Hai detto se avessi t'avvi. E si è spostata, dai. E beh, penso proprio che mi stavo dando fastidio. Su progressi. su, come si dice. Avanti te. Su progresso, è così, este, già va bene, già va bene. È così, non ragione di. Aspetta, donna girata da entrata con un chilo di 200 grammi di droga. Valigia, sì. Con un po' di quattrini anche. Cosa vuoi farci? Così va bene. Allora, chi c'è stato nei vetti? Quelli stanno bene, ma già sono controllati, quelli sono soldi facili, non va bene. Tuglia, ma vabbè, lasciamo perdere là. Mi sto accendendo la TV qua, c'è la partita Milan-Lazio alle 8:30, vediamo se è già iniziata, ma non penso. Infatti non è ancora iniziata, ripeti già. Vabbè, mi sa che un altro paio di passaggi e vi abbandono per stasera. E niente, dai, poche parole, poca voglia anche oggi. E niente, poca gana in generale. Hai lavorato troppo oggi. Forse perché è proprio fatto l'esatto contrario, che mi sta dando fastidio, dai. Lo so, a volte più rimani rilassato e peggio è. Io addirittura se arrivavo più del dovuto a letto per dire oggi non sono andato perché tanto sapevo che stavo bene, per il lavoro dovevo fare l'avrebbero pianto, e no, abbiamo rimandato. E mi sono fatto un pochino più tardi, ma un'oretta più tardi, non di più. Caspita, un mal di schiena allucinante. No, ci prende altro. Non vorrei peggiorare la situazione. Succede anche quello. E cosa ci vuoi fare, dai? Claudio, ci sei? Sì, qua sono io. Ho acceso la TV, c'è la TV a parete qua. Il 42, ma so, quest'estate. Almeno, quando sono in ritiro c'è tutto qua. Non acceso, mi avrei uno, c'è. In chiaro c'è Milan-Lazio, semifinale di Coppa Italia. Intanto. Cioè guardiamo, giusto per vedere qualcosa. Vabbè, dai, io ragazzi vi saluto, ci sentiamo alle prossime, grazie della chiacchierata, ci aggiorniamo quanto prima, ok, buona serata, buona carica e tante cose belle, ok, ciao ragazzi, ciao, alle prossime, a domani, vai ti. Ciao, ci sentiamo alle prossime, buon divertimento. E te già fatto di? Niente, claro. Sto guardando un po' di cose su Facebook, qualche cazzata. Niente, poi c'era un trullo e tappeto nell'Orese, parlo resti, e 23 di luce. E lì vabbè, lì si sa come l'ha andato, non è che cambia molto. Già si danno forte perché se noi siamo andati a Porticcio a passare una pasquetta, c'erano dei ragazzi di Oliato, da parte lì, 25 anni, ma il casino che hanno fatto la metà bassa. Guardi a Filippo, non mi vuole un minuto, poi mongo un lettino no, che ho questo cucchiaio, è sempre sopra, con muce in mezzo alle gambe, adesso siamo saliti. No, mi molla un minuto che. Ma perché vuoi uscire fuori? No, siamo saliti poco fa, lui sta sempre appresso a me, ti. Sta sempre appresso a me. No, non c'è niente da fare, è un cane così buono. Fuori un po' si scatena, ma dentro casa è un gatto, lui sta sempre sotto. Vieni, dai, vieni. Poi si mette col muso vicino, senza grattare la banza, ma ti vuoi la giurità, ma tu vende grattare la banza dentro? Col piede. No, che te lo lecca a piede, così. Vieni. Cazzo, una rottura di palle, una cosa allucinante. Vabbè, dai, già ci sta. No, ti un bel compagnia fa. Se non c'è. Quando ci sarà, sarà un casino. Però non ne prendo più, per il momento niente, poi magari in campagna si vedrà, ma a casa non fatti, non fa. È un grande impegno, un grande impegno. Quando ho il cane io ho delle orari particolari, devo seguirlo, devo farlo, anche quando vado al mare. Per dire, se vado, devo andare dopo le 10, dopo che porto a lui. Lui rimane a casa, tranquillo, non lo rompo le palle a nessuno, lascio tutte le porte aperte. Dove lo lasci e lo trovi, perché c'ha due brandine, una in camera da letto mia vicino al letto, perché la notte viene lì, dorme lì, e l'altra è nel salone, proprio brandine, lettini, proprio per il cane, sempre ordinate, e lui sta nel salone quando noi stiamo nel salone, quando spegniamo tutto e andiamo a letto, lui viene e si colica vicino a me nel letto, sotto la finestra, capito? C'è la sua brandina. Quindi tu lo lasci lì e lui è tranquillo, però devo rientrare verso le 5:30, le 6 dal mare, è un orario che va bene, capito? Orario che va bene, però molti si godono il fresco sino alle 7, alle 8 come mio fratello, io alle 5:30 me ne devo andare, perché devo preparare la cena a lui, alle 7:30 lo devo portare, quindi è un impegno. Piove o non piove, devi sempre portarlo, è un impegno, cioè mantenere un cane a casa che non hai il giardino, è un grande impegno, sì. Non come te, vedi, lì sei organizzatissimo perché c'hai il tuo giardino, c'hai tutto, lui sta fuori, esce, fa i suoi bisogni, non ti rompe le palle, ma tu immaginati se da lì tu dovevi portarlo a passeggiare, mamma mia. Lo so, ho avuto il cocker, la tre volte, ti ricordi, lì, l'ho avuta per 11 anni in casa, quindi lo so. Anche se non ero io a occuparmene, c'era mia sorella che la lavava, la pettinava, io la portavo in giro, mi occupavo di portarla in giro, di portarla in campagna, al mare con me, e guarda che non la volavo. Tu pensa che se era coricata con mia sorella, quando sono andato un pochino lì qua, sì, ma lo sapessi, Filippo non sale, è che è molto grasso, molto, non è così ginnico da saltare, però se c'ha la brandina vicino, prende la ricorsa della brandina, boom, e sale sopra il letto, capito? Sale sopra il letto, inizia a romperti le palle, quindi ti lo mandi oppure vieni besi, è così, il cane a casa è così, questo ogni 15 giorni, sono ingrassando il guro a Monica in via Pasqua, ogni 15 giorni, venerdì l'ha lavato, venerdì prima di Pasqua, lavato, tagliate le unghie, tutto pulito, ordinato, ogni 15 giorni lui ha al lavaggio, se ce l'hai a casa cosa devi fare? No, io non lo portavo al lavaggio, ma quelle cose le facevo io, le unghie le tagliavo io, mentre invece per lavarlo lo lavava mia sorella, un giorno sì, un giorno no, anche forse uno ogni due giorni, ma non l'ho fatto ogni due giorni facevo, perché poi da lì, la mia sorella diceva, beh Lilli, bagnetto, già il bagno era, di allora avevamo la maschera da bagno, quindi voleva sempre entrare, no, che le piaceva. Ma tu il cocker è a pelo lungo, questo è a pelo corto, non c'è bisogno, però ogni 15 giorni devi lavare. Ma Filippo da piccolino lo lavavamo noi, capito? Io avevo comprato addirittura la casa di animali, adesso ce l'ho su mansarda, la controvasca, no? Non è che lo mettevo dentro la vasca come la voglio, c'è una controvasca in pratica, dove la mettevo dentro e lo mettevo, ma era piccolino. Tu prendi a Filippo adesso che pesa più di 30 kg a prenderlo in peso, metti dentro la vasca, poi quando lo lavi si custodisce tutto, ti fate un casino niente. No. Guarda, io 20 euro al mese ce li ho fissi solo per lui, solo per il lavaggio, perché è così, più altre, le altre cose che le compri, le fai, eccetera, insomma, già ne ho spese anche per il cane, però ce l'ho e me lo tengo, e guarda, me lo do a Kabul. Bene, ci mancherebbe altro, no, non sei così, io mi sono scappi, sono in campagna, quindi non ho più di questi problemi qua, in casa piccolino, ogni tanto per ascoltarmi la mattina si fa un giro del tavolo se fugge perché non sto abituando a stare in casa, però diciamo che loro sono più arricchi. Ho capito, anche Filippo quando porto in campagna che lo mollo diventa, sta buono, oramai sa che anche lì non lo porto spesso, perché lo porto, e quindi sta bene, corre, fa, gira, molla, però a casa lui passeggia, fa, si va di tutte le stanze, quando c'è la finestra aperta si mette i piedi, si mette sopra il mocifone e buga fuori dal balcone a prendere aria, capito? Oppure vuole aprire il poggiolo, se ne sta un pochino fuori nel poggiolo, anche se non sta piovendo, però, capito, anche poco fa era nel poggiolo, abbaia quelli che passano, quelli che vede nel marciapiede, li abbaia, e gli arrivate un po' di da brutto, però sempre un cane d'appartamento, capito? Poi non è che può stare molto in giro, camminando e facendo perché si stanca, la gente va di fiumi. L'estate per me è un'odissea, sì. Perché c'è sempre l'affanno, bava molto di più, devi stare sempre appresso a lui, con il suo bavaglino. L'estate c'è il bavaglino, Filippo, proprio come i bambini, capito? Perché è un pizzino. Ce l'hai, e quindi bisogna mantenerlo così com'è adesso. E io infatti ce l'ho e me lo tengo, no, non ci sarà più pazienza, mi piglio un pesce d'acqua dolce. No, io, vabbè, a me di cani ne sono molti, perché purtroppo ho avuto la sfortuna di avere molti cani, sono molti con le smania, ma quelli di che tenevo qua in campagna, diciamo, erano cani da caccia, e quindi nel loro canile, tutto lo pulivo ogni giorno, io il canile perfetto, lo uscivo, andavo a mangiare, a bere, cambiavo l'acqua, però purtroppo in campagna ci sono molto da andare, quindi ho avuto la fortuna di avere dei cani, sono morti così, con le smania, e soldi che non ci ho buttato, però devo dire per curarli, per farli, però alla fine no. Sempre sapevo già come finiva, quindi e niente, però facevo uno e uno e non riuscivo a stare senza attaccare, dovevo per forza tenere l'altro. Dicevo munire la zizzola, morire la zizzola, tomba di coppenna va. Perché allora io in campagna una volta l'ho visto, tutto si cuzzolava, fazia, siccome lui c'ha la mania di annusare molto per terra, no? I morsi sono così, un muso piatto, poi si è pizzicato qualche nido di vespe, l'hanno attaccato, una via 30 da Recci, tutti i rughi era tutto pieno di vespe, non gli ha fatto niente, nulla. No, invece io mi ricordo lì una volta avevo appunto la vespa in faccia, l'era gonfiata la faccia, poverina, gonfia, la roba dell'altra, si è trasformata. Se vuoi dire a Filippo la vespa che non entra l'ago della vespa, si mugia nella gottena che va. Come me la cinghiale, che? Io? Ah, un cinghiale, quando ho portato al veterinario, lo devo mettere nel lettino, lo prenda lì, dottor, no, lo prenda lì, che a me fa male la schiena. E vabbè, quanto peserà? Guarda chi? Ehi, 37. Un poco, con tutto, vieni qua, l'ho visto, è simpatico. No, ma è bello muscoloso, mi è proprio tosto, anche perché il mio è un bulldog inglese, praticamente è un fuori Italia così chiamato, no? Ha un nome particolare, non riesco mai a dire. Ed è molto più grosso e molto più alto rispetto agli altri bulldog inglesi che li vedi, non vanno neanche i gorsi, sono ciccione. Filippo c'ha le zampe alte, infatti a me mi dicono, secondo me questo è un bully pit, no, è un bully pit, è un bulldog. Oh, qua un pitbull incrociato con un bulldog. No, non c'è un bulldog. Oggi i documenti, è un bulldog, non ti preoccupare. Allora, no, a me poi quando vedo cagnolini, io subito mi innamoro dei cuccioli, delle cose, perché ne potete parlarne altre, ma non so perché sono Ti guarda, io mi ricordo il giorno come oggi, ero uscito dal divano, uscito la macchina a arrivare di Laria, ecco, aperta la Milaria è già rientrata, ed era anche presto, evidentemente è uscita prima oggi. Però ho suonato il campanello, ma spesa doveva fare Laria, perché di solito suona quando vuole scendere a prendere l'acqua o cosa, no, dando una mano per l'ascensore, eccetera. Ho detto chi è? Apri papà, ho aperto, e ho lasciato la porta socchiusa, no? Ho aperto anche la porta qua di casa. Mi arrivi da in braccio, va via Edo. Uia, uia, uia. Non sai quanto era piccolo, quanto è bello quando è piccolo? Ma è un osso, è simpatico, non è bello, è simpatico. Ma quando è piccolo è troppo bello. Vatti là, per favore, portalo via. Non ne voglio cani, portalo via. Papà, aspetta, ragioniamo. Là, porta via il cane, ho detto non ne voglio. Mi ha fatto Mario, mi ha arrivato Marionino. Le ho preso, guarda che bello. Cazzo, gli ho bendato, gli ho pigliato in braccio. Commenta l'inghimi che sto dando. Commenta a dire, ma perché non mi vuoi? Cosa ti ho fatto? Ma quanto era bello, quanto era bello. Te io entra, entra per favore, cazzo, mi sto sentendo male. Ma ti aspetta, vuoi scendere giù perché ho preso tutto. E cosa hai preso? E c'aveva già il suo cestinetto piccolino, sai, quando è piccolo poi ha comprato un letto matrimoniale. Ma sì, per dirti, non lo volevo, ma quando l'ho visto me l'ha già detto. Anche mamma era così, mamma. L'abbiamo portato a Lidia, che era piccolina, aveva 12 giorni quando me l'ha regalata Italo. Ha detto no, no, ehi, dai, mi mettete la fuori, non ho voglia di non ho voglia. Poi io vai a toccare, solo che vabbè, è stata sacrificata anche lì, perché ogni giorno poi sai che le coccole, avendo il pelo lungo, ogni giorno lo spazzava, non dico una paletta, ma quasi il pelo lo battuto dal pavimento, e quindi insomma era sacrificata anche lì, però vai a toccarla. Sì, ci sono due aspirapolveri io, una ne ho comprato un'altra, 100 gradi, tutte le mattine, tutti i santi giorni, l'isofor, tutti i giorni andiamo puliti. Però qua chiunque viene mai mi ha detto proprio a chiederglielo, ma senti, assolutamente no, non si sente l'odore del cane, niente, perché il cane è ordinato, pulito, le brandine sono pulite, sono ordinate, li disinfettate tutte le mattine, le mettiamo fuori, le spazzoliamo, eccetera, capito? Il cane vi tranquillo. Sì, siamo, non ricordo adesso il tuo, sì, non lo ricordo. Adesso sto facendo memoria, sì, è venuto una volta, mi pare, attorno alle misure di quella casetta del cortile, e c'era il cane, non me lo ricordo. Però, sì, anche Anna era così, portalo via, non lo voglio, ce lo butto nel cassonetto quando non ci siete voi. Ah, va, ci rimanca lì, poi molta. Ma invece il cane che ha Maiorino, cos'è che ha fatto? Cosa? Il cane, quello che ha Maiorino, che razza è? Quello è un paese canario, è praticamente sempre un molosso, però è gigante, allucinante. Fifo Bassasotto. Quello è bello, ma è maschio? Sì, ma è un buono, quel cane è di un buono allucinante, è più buono lui che Filippo. No, io se un domani vorrei prenderlo uno, però grosso, diciamo, bello, grande, non dico pitbull, ma un similare. Guarda, no, non prendi il pitbull, non prendi il pitbull, perché il pitbull stando fuori si fa territorio, può essere pericoloso per i bambini, per gli altri. Prendi un cane tipo quello, un molosso, però vedi, anche un bulldog inglese fa molta guardia, lui soprattutto giù, ma anche a casa, chiunque senta camminare o fare quelli delle scale si mette alla porta e abbaia, capito? Perché è abituato così. Un cane che sia buono allo stesso tempo, che però ti possa fare, insomma, possa fare guardia. Ce ne sono tantissimi. Vedi, è molto bello il Labrador. eccezionale la guardia, molto molto bravo con i bambini, con chi lo gestisce, però nel suo territorio praticamente nel cancello non ti fa entrare, perché c'era mio cognato e io l'ho vista piccolina, eppure tutte le volte che vado a primo impatto mi abbaia, poi un pochino la chiamo, si avvicina, allora sa che sono io e mi vado ad entrare. Però sono dei cani meno aggressivi, capito? No, no. Mi piacciono, perché sono belli l'altro, però sono troppo di querellone, sono troppo. Non è la guardia, assolutamente. I morsi sono un problema degli infarti, del cuore, di tutta roba qua, sono tutti un cane che deve rallaggiare nel suo territorio, deve essere parlaggiante nella sua area, giustamente. Poi devo dire a me, perché io avevo il maremmano che non c'era nessun altro che veniva solo a me, né mio padre, né mia madre, solo a me, ma in campagna non entrava nessuno se io andavo qui, se io andavo qui lui era tranquillo. Sì, ma anche il pitbull è della categoria dei molossi, non è che cambia niente. E vabbè, e già ce n'è, c'è il coso, il come si chiama, il Rottweiler, ce n'è i cani, quelli col cazzo entri dentro casa. Vabbè, dai che mi ha chiamato Anna, io ceno, lascio tutto acceso e poi me ne rientro qua a vedere la partita, ok? Se ci sei, a dopo. Ehi, c'è problema, dai, sono qua, io adesso vediamo cosa organizzare per la cena, poi mi trattengo anche io un pochino, dai. Va bene, ciao, adesso a tutti. Ciao, ti altrettanto, a dopo. A10MHz アフリカ中部向けの 15.130MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK 国際放送です。 Bonsoir Marie, c'est une bouteille à Vladimir.